Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti vai, sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tu sei dentro di me come l'alta marea che scompare e riappare. Mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Sì, dobbiamo parlare dello scandalo del MOSE, è vero, no? Dei partiti coinvolti, tutti, il PD, Forza Italia, la Corte dei Conti. Tutti pagavano tutti, spese aumentate, Guardia di Finanza, una vergogna assoluta, ovviamente se le accuse fossero confermate, ma pare che i giudici abbiano delle prove di ferro, altrimenti sarebbe una vergogna avere arrestato per esempio il sindaco di Venezia, se non avessero prove inoppugnabili. Però io ogni volta che sento quella voce del professore Antinori, no? Quella che abbiamo sentito prima dalla sigla, un po' mi emoziono, perché mi ricorda dei momenti meravigliosi, il professor Antinori che si arrabbia con noi, beh, è fantastico. Perché ti devi sputare in faccia. È favoloso il professor Antinori. Ti denuncia il carabinieri, ti denuncia il carabinieri, ti incontro. Se ti trova. L'alta marea è quella del Mose che trascina tutti a fondo. Io ricordo che Giancarlo Galan, di cui siamo amici, Forza Italia, ma accusato amici, siamo di amici, nel senso che ci sta, amico ci sta simpatico, diciamo, no? Sì, con Giancarlo Galan di Forza Italia, che è accusato addirittura di aver preso per un lungo periodo uno stipendio di un milione di euro. Uno stipendio. Sì, ma non lo dire euro. Così, perché sono uno solo le accuse. Lui dice di essere innocente, ovviamente. L'unico dato certo è il sequestro, come tu sai, di quanto? Di 40 milioni di euro. Cioè la Guardia di Finanza, sì, però aspetta, stai tranquillo. No, ma devi dire solo questo per me. Solo 40 Galan. Milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza. Vabbè, nell'inchiesta in generale. Beh, bravo, allora. 40 milioni, amico mio, 40 milioni. Basta, io su questo non dico più nulla. Fine, 40 milioni. Qualcuno li aveva da qualche parte sti 40 milioni di beni o no? Qualcuno? Mica, non parlo di gente Galan, in particolare. Galan che dice, che dicono i magistrati ha preso uno stipendio di un milione di euro, un milione di euro per un lungo periodo, diceva a noi lo scorso settembre, per esempio, che in banca ho solo passivi Galan. Allora, o hanno ragione i magistrati che è un bandito, un ladro che si è intascato un milione di euro per non so quanti anni come stipendio, un milione di euro l'anno, o è un bandito, oppure hanno preso un abbaglio, perché uno dice di avere, uno che dice di avere passivi addirittura in banca. In banca sono solo dei passivi, non voglio neanche contare quanti numeri negativi, che numeri negativi ho. Avrò un passivo di 300.000 euro. Viene tutti perché non le seguo io queste cose, le segue il commercialista e mia moglie, ma abbastanza. Non lo so, sparo a caso, ma saranno 300.000 euro. Questa mattina Galan, ma ricordiamo che il sindaco PD di Venezia è agli arresti domiciliari. Non per corruzione, ma per finanziamento illecito dei partiti. Esatto. Allora, stamattina Galan doveva essere ospite a Omnibus. Stava entrando nella redazione, studio. Nello studio. Gli è arrivata la notizia della richiesta di arresto. Adesso deve passare dalla camera. Sentite, Sardoni. C'è anche una richiesta per il deputato di Forza Italia Giancarlo Galan, che è stato anche presidente della Regione Veneto e che doveva essere ospite di Omnibus proprio questa mattina. Ci ha detto che questa notizia, non, ci ha detto che non sa per quale ragione, quale sia il tipo di accusa, non ne sa niente. La notizia è arrivata a sua moglie e lui stava venendo, invece era a Roma e stava venendo qui nello studio di Omnibus, ma per adesso non si è sentito proprio non di fare dichiarazioni e quindi non sarà tra gli ospiti. Maschietto, maschietto, maschietto. l'emergenza è criminogena per sua natura, cioè i lavori che vengono fatti in emergenza, questo può essere vero per l'Expo, però in questa vicenda qui va avanti da anni, anni, anni, la vicenda del MOSE, non sono proprio lavori in emergenza, diciamo, Le cause sono molteplici, lo sfascio politico generale e poi le procedure bestiali per le opere pubbliche. Cioè? Se tu sei costretto a fare opere pubbliche in costante regime di emergenza, l'emergenza è criminogena per sua natura. Lo splendido scontro tra Maurizio Bianconi, Forza Italia, e Mario Adinolfi. Sentite. Renzi fa parte del sistema, di questo sistema, perché appena avuto la bacchetta in mano ha preso e in ogni ente, dal più piccino al più grosso, dove aveva la possibilità, ha messo i suoi uomini, che non sono i suoi uomini di riferimento politico, ma sono tutti i suoi uomini di riferimento economico, perché sono tutti quelli che gli hanno tenuto le fondazioni, che gli hanno trovato. Hai qualcosa da dire dal punto di vista penale su Matteo Renzi e i suoi uomini? Hai qualcosa da dire sul punto di vista penale su Matteo Renzi e i suoi uomini? Hai qualcosa da dire? Scusa, se hai qualcosa da dire, dilla. Ecco la lotta generazionale del cazzo. Questa è la lotta nazionale del cazzo, perché lui delle mani in pasta. Allora Mario, delle mani scusate, in pasta. Da casa non capiscono nulla. Non è una questione di Renzi, no, la direzione delle giornali, consigli di amministrazione, tutto. È questione di correttezza. Posso dire una e cosa? Tu alzi la voce, oggi pure alzare la voce. Bianconi e Adinolfi, un attimo. No, il tema che pone Adinolfi è, parliamo del merito, se arriva gente per bene e onesta che l'abbia scelta Renzi, anche normale. Non è così. L'avete messi tutti voi dentro, a questo essere immondo che smetta di urlare. Sei un essere immondo, perché te non fai parlare la gente? No, ragazzi, però non vi offendete personalmente, parlate una alla volta. Continua a berciare sulla voce. Mi mettete a disagio. Mandiamoci sulla Rai. Un essere immondo. Continua a berciare. Invece molto da dire berciare. Continua a berciare. Un essere immondo. Bianconi ad Adinolfi. Continua la polemica sulla Rai. Crozza dice a Floris: Giovanni, stai sereno. Floris sembra essere il capofila degli anti-renziani. In realtà andava sempre Renzi da Floris, sembra essere diventato il capofila. Signori miei, io non voglio entrare nel merito, ma nella Rai ci sono un sacco di sprechi. Per esempio, ci sono quelle cose che vanno tra una pubblicità e l'altra. Quelle con la gente che parla con uno in piedi con le sedie di cartone dai lati. Sono soldi buttati. Comunque Giova, stai sereno. Vogliamo dire una cosa, tornando alla vicenda del Partito Democratico, il MOSE e tutto lo scandalo che non coinvolge ovviamente solo il Partito Democratico, anche se il sindaco di Venezia è del Partito Democratico. Certo. Allora, io dico una cosa molto semplice. Il Partito Democratico per molto meno invoca le dimissioni degli amministratori locali, dei politici, dei parlamentari, eccetera. Ora, il sindaco di Venezia, e speriamo che i magistrati abbiano agito bene nel chiedere l'arresto, ovviamente possiamo solo sperare che sia così, anche se i precedenti non depongono molto a favore dei signori magistrati, ma lasciamo perdere questo argomento. Ora dico, il Partito Democratico dovrebbe chiedere seduta stante oggi, per tutte le richieste che ha fatto nel passato, che Orsoni dagli arresti domiciliari, secondo me non si dovrebbe dimettere. Però siccome il Partito Democratico ha chiesto le dimissioni più volte di altri amministratori locali, soprattutto dell'opposizione, o comunque soprattutto di Forza Italia o del PDL, quello che era, dovrebbe chiedere oggi immediatamente le dimissioni di Orsoni, del sindaco di Venezia, perché è stato arrestato ed è agli arresti domiciliari. La mia opinione è che non si dovrebbe dimettere, però per coerenza il Partito Democratico dovrebbe chiedere le dimissioni adesso, oggi, immediatamente. E non mi dire che ho torto su questo, non ti ho interrotto semplicemente perché certamente come è stato detto per altri, in altri casi, il PD dovrebbe chiedere le dimissioni del suo sindaco. Non c'è ombra di dubbio, non c'è ombra di dubbio. Micciché, che non è stato eletto per Forza Italia al Parlamento Europeo, ha fatto un titolo del giornale. Dice che con la pensione da parlamentare non si fa la bella vita. 4.000 euro di pensione da parlamentare. Sentite, Micciché, e incazzatevi pure se volete. Ma che certamente con la sola pensione di parlamentare non si possa campare bene, poi per carità, non esageriamo, c'è chi vive con 1.000 euro al mese, per cui io posso vivere con 4, però effettivamente per chi ha 3 figli, di cui 2 che stanno fuori Palermo e bisogna camparli pagandogli la casa e quant'altro, posso garantire che con la pensione di parlamentare non si fa una bella vita. Con la pensione da parlamentare non si fa la bella vita, Micciché, che dice anche di aver visto belle donne intorno a Berlusconi ma di non averle mai utilizzate, Micciché. A segnare la storia di Berlusconi sono state anche le frequentazioni femminili, a volte con minorenni. Ma è possibile che lei, che da sempre ha messo alla corte del presidente, non ne abbia mai incontrata una, vista una? Giuro di no, viste sì, utilizzatela. Con noi il sindaco di Bari, Michele Emiliano, buonasera. Buonasera a tutti. Come andiamo? Benissimo. Ben ritrovato qui alla Zanzara. Emiliano, le chiedo subito una cosa, ma il PD non dovrebbe chiedere le dimissioni di Orsoni che ha gli arresti domiciliari? Per essere coerente, un sindaco arrestato, per carità, siamo ovviamente all'inizio delle indagini, però... La decisione di dimettersi è propria soprattutto dell'arrestato, della persona che in questo momento ha la responsabilità innanzitutto della città e poi ovviamente in seconda battuta quello anche del partito, ma è una cosa secondaria. No, beh, non è... in questo momento, sì. In questo momento la questione più importante è innanzitutto anche il diritto di difesa di questa persona. Deve valutare se per difendersi, difendere la città, difendere se stesso e difendere anche il partito in terza battuta, sia più opportuno dimettersi piuttosto che scusami, iniziare un calvario di questo genere. Dopodiché è evidente che dopo un provvedimento del genere... Esatto. È una di quelle questioni che il Partito del Veneto dovrà... No, però scusi, al di là del Partito del Veneto, io lo capisco... Mi conto che io sono il segretario della Puglia, se mi metto a interferire nelle questioni del Veneto... Ma non è solo questione del Veneto, è una questione proprio nazionale, sì, dal punto di vista politico, siccome il Partito Democratico... Posso dire però che io non ho letto una carta, non ho la minima idea di come stanno le cose, certo in linea di principio se l'indagine, come pare, è ben fatta, da fondamento, è evidente che la conseguenza è quella lì. Cioè, però sì, d'accordo. Io però dal punto di vista politico, lei ha parlato con qualcuno, però, credo oggi, avrà parlato con qualcuno. Non ho parlato con nessuno perché con persone del partito, io dico, mica con i magistrati, dico assolutamente. Secondo lei, dal punto di vista politico, siccome il Partito Democratico, se fosse stato un sindaco dell'opposizione o comunque un sindaco di Forza Italia, avrebbe chiesto immediatamente le dimissioni, parliamoci chiaro. Allora, io dico una cosa, Orsoni si deve dimettere per il suo bene, per il bene del partito? Orsoni deve valutare con grande attenzione quello che è l'interesse della sua città, e se nell'interesse della sua città, come è evidente, sta nel fatto che lui si deve difendere da sindaco, lo deve valutare lui sulla base degli indizi che lo hanno colpito. Se viceversa la decisione riguarda il partito, mi permetterà di dirgli che chi deve prendere questa decisione è innanzitutto il partito. Ma fosse per lei, Emiliano, fosse per lei, che cosa dovrebbe fare Orsoni? Se fosse capitato a me, vuol dire, è una bella domanda. Fosse capitato a lei, si sarebbe dimesso. No, per carità, non voglio che lei sia arrestato, Emiliano, per carità. Non voglio che lei sia arrestato, assolutamente no. Ma io credo che se mi sentissi innocente non mi dimetterei per niente e mi batterei come un leone, perché di solito... Ma le dimissioni è una questione politica, però allora... Per dimostrare la propria innocenza è bene... prima di tutto battersi. Io penso che in galera da innocente si possa stare, da colpevole meno. Ma è quello che hanno sempre fatto quelli del centrodestra. Esatto, però. Cioè la stessa del centrodestra cosa. Hanno sempre detto questo. Io sto solo dicendo quello che è il sentimento che in questo momento ho nel cuore. Cioè, no, perché nel senso che se una persona si sente assolutamente innocente, si deve battere per far valere la propria innocenza. Poi se lo deve fare da libero cittadino o in, professore, d'accordo, però Emiliano, però scusi, che differenza c'è tra in altre occasioni voi avete chiesto le dimissioni di persone per molto meno, magari non lei, però se vado a ripescare qualcosa magari anche lei. Traffico, torno subito. Michele Emiliano, sindaco di Bari. La zanzara. Quando la zanzarina è ancora a casa, tormenta la mia noce, passa in blanco. Allora, sulla vicenda del Mose, devo dirvi un'altra cosa però. Ci sono diversi esponenti del Partito Democratico, compreso il suo collega Emiliano di Torino, cioè Fassino, il quale dice: beh, io conosco Orsoni come una persona corretta. Ora, va bene tutto, ed è probabilmente, secondo me non si deve dimettere tra l'altro Orsoni, però in altre occasioni siete andati giù duro sulla corruzione. Io, per esempio, la vicenda dell'Expo e altre cose, quando erano coinvolti gli altri. Cioè, io vorrei sentire da uno del PD, io non sono d'accordo, perché in linea di massima penso io voglio dire questo: le dimissioni, se hanno natura politica, cioè, per esempio, una persona doveva sorvegliare, non ha sorvegliato, ma finanziamento illecito in questo caso. Sto dicendo che la questione giudiziaria è una questione che rende tutto molto più complicato e dipende anche dalle decisioni della singola persona. Io non conosco Orsoni, anzi devo dire non sono riuscito con lui a scambiare probabilmente neanche due parole, quindi non sono in grado, come Fassino, di dire se è una brava persona o non lo è. Dico però che in questo momento quella persona ha bisogno probabilmente del tempo necessario a ragionare su quello che deve fare, prima di tutto per la sua città. Nel senso che una città deve anche ha il diritto da parte del suo sindaco di sapere se egli intende di battersi dimostrando la sua innocenza subito, cioè bisogna fare, come posso dire, qualche cosa di particolarmente difficile, cioè anticipare il processo e discuterlo subito, adesso. Se viceversa ha bisogno di attendere la procedura ordinaria, onestamente io gli consiglierei di lasciar stare, perché difendersi in un processo che dura un anno, rimanendo sindaco, è molto complicato. Però non mi permette di dire... E in più farebbe probabilmente danno alla città, perché ogni volta, devo dire che il danno che abbiamo ricevuto è già gravissimo, perché Venezia... Grillo non è dice, Grillo, appunto questo dico io, non è una città qualunque, dunque. Ma lei si vergogna un po' che sia coinvolto il sindaco di Venezia, un esponente importante del Partito Democratico? No, io dico solo che in questo momento penso che peraltro non sia neanche l'unico esponente del Partito Democratico coinvolto. No, no, c'è un consigliere regionale che però pare che abbia lasciato il PD. Probabilmente con un'imputazione meno grave, altri sono forse più coinvolti. Ma Galan, la Camera deve autorizzare stamattina, su. Stamattina, quando ho sentito la notizia, mi sono sentito, come posso dire, profondamente colpito, perché milioni di persone che nel Partito Democratico in questo momento stanno facendo uno sforzo enorme per salvare questo paese, certo non sono avvantaggiati dai fatti che sono stati costruiti dalla maggioranza. Senta, Grillo dice che le larghe intese vanno in manette, cioè dice, sfruttando ovviamente la situazione, che diversi esponenti trasversali dei partiti, cioè Forza Italia, PD eccetera, sono coinvolti, ed effettivamente è vero, cioè è quello che dice. Sono sempre stati più contrari di tutti nel PD sulle larghe intese, quindi diciamo che sfonda una porta aperta Grillo con me. Alzi un po' la voce, Emiliano. Temo che la questione Mose sia più complicata, però, perché questa è una storia che dura da 25 anni, dicono nelle carte, dicono gli osservatori che ho potuto seguire nel telegiornale. C'è una vecchissima storia. La sentiamo poco, Emiliano, poco. Cioè, è corretto dire che le larghe intese sono andate in manette, cioè hanno arrestato le larghe intese, allora? Che sia questo il punto. Quello che è sicuro è che la corruzione non ha certamente parti politiche. Aggredisce le persone deboli e spesso non consapevoli della responsabilità. Che c'è, Parenzo? Che gli vuoi dire? No, volevo chiedere sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Galan, no? Se lui ritiene che debba essere votata. La Camera la deve concedere subito? Al più presto, oppure no? Credo che abbiamo sempre fatto così con tutti. È stata concessa da ultimo a Genovese la velocità della luce. E quindi va anche per lui. Sia concessa anche per Galan, cioè deve andare in carcere subito, questa è la sostanza, perché poi se non credo che ci sia fumus per repercussioni nella vicenda, non ho questa impressione. Senta una cosa, per andare a una cosa più leggera, che magari la giornata non è proprio adatta, però l'ho vista esultare Parenzo in mezzo ai baresi per la partita del Bari che è in semifinale, eccetera. Ci sono allo stadio, ci sono un sacco, vengono ormai 30, 40, 50 mila persone. Se il Bari va in Serie A, caro Emiliano, lei che cosa fa? Mi faccia una promessa. Ma io quello che posso fare nell'interesse della città, della mia famiglia e anche di me stesso è che prometto di perdere 20 kg. Ah, 20 kg, cioè inizio una dieta di 20 kg. In cui voi mi pesate all'inizio e siccome per me è una cosa veramente dura, perché chi mi conosce sa che è una di quelle cose che probabilmente avrei evitato di fare ad ogni costo. Quindi io in questo momento non dico quanto peso. No, lo dica. Allora, a questo punto lo dica. Più di 120 kg. Più di 120, e probabilmente da qui, se il Bari mai tocchiamo ferro e dovesse andare in Serie A, magari ne peserà. Io mi impegno entro ottobre ad arrivare a 100. No, 105. A 105. Benissimo. A 105 entro quanto? Fino a ottobre. Fino a ottobre. Beh, bel impegno, Beh, ragazzi, sennò non è una dieta, è una malattia. Senta, l'altro giorno Sposetti, che era qui ospite da noi, ha detto che in realtà il PD non ha sbagliato a iscrivere Greganti, perché uno che ha pagato con la giustizia e che era un libero cittadino che poteva tranquillamente iscriversi al Partito Democratico, e ha detto che chi sostiene il contrario non è un garantista. È malafede. Sposetti evidentemente è amante di quel Partito Democratico che speriamo non torni mai più indietro. Io, cioè, quello degli affari, quello degli affari. Signori miei, per molti anni anche nella sinistra affari e politica sono stati coniugati come se fossero la stessa cosa. Non sono la stessa cosa, bisogna avere il coraggio di fare politica. Ma anche il Mose, anche la vicenda del Mose è una dimostrazione di questo, dice lei. Credo proprio di sì, perché gira e rigira, noi non abbiamo ancora depurato da dentro la cultura politica del PD, che un conto è un finanziamento per una campagna elettorale e un conto è un finanziamento che deriva da un lavoro pubblico. Sono due cose completamente diverse. Beh, non c'è dubbio su questo. E poi soprattutto i finanziamenti devono essere leciti, cioè iscritti secondo le regole e tutto. Non solo, ma non devono essere connessi a lavori, a opere. A me non c'è dubbio. Va bene, a presto, arrivederci. Grazie. Saluti. La Zanzara. Sì. Lei, signor Sputacozzi? Pronto? Sì. Lei, signor Sputacozzi? Quanti cazzi volano in questa trasmissione? Questa è la gentile signorina di ieri sera. La gentile signorina di ieri sera. Non che ha tutti i torti, madame. Ma smettila, smettila, madame. Che sei il primo. Sei no, il primo. Io sei non il primo. Li faccio mai sì, volare. Sì, sì, sì, sì, sì. No, il mai. Primo, il primo. Oh, te la ricordi la Bacchiddu, quella del culo? Ecco, appunto. La Bacchiddu, quella del sedere. Come devo dire? Del sederino? Del sederino mostrato? La dimostrazione. Ma come? Non ho capito. La dimostrazione di che cosa? Perché non si può dire che ha fatto vedere il culo. Che cosa devo dire? Che ha fatto vedere il di dietro? Ha fatto vedere il sederino? Più, cosa è devo più dire? È più fine. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Cioè, ma non è vero, cioè, la realtà è questa: ha fatto vedere il suo culo la signora Bacchiddu di Tsipras, no? La campagna elettorale, cioè, non è andata... che ha fatto questa operazione così. No, l'ha fatta la per risvegliare l'interesse su Tsipras, che secondo lei non, per risvegliare le coscienze. Non se lo filavano. Che coscienze, non si filavano. Tsipras ha detto: adesso vogliamo, vi dimostro che parlerete di Tsipras solamente perché faccio vedere il culo. Ed effettivamente questo è successo. Allora, la signora Bacchiddu sostiene che la mossa della Spinelli, che non si sa ancora cosa decide, se andare in Europa o non andare in Europa, Barbara Spinelli, è squalificante. Ma insomma, scusate, la premessa di questa storia è che noi non facevamo come la lista, non faceva come gli altri partiti, no? Facendo delle candidature civette, eccetera, perché con coraggio e onestà intellettuale dichiarava da subito che erano soltanto delle candidature di traino, e poi si viene eletti e si va al seggio. Non so, io lo trovo squalificante. Addirittura c'è un'ipotesi adesso che sarebbe il terzo errore per questi qua dell'altra Europa, cioè l'ipotesi rotazione, come facevano i radicali, ti ricordi? Come facevano i radicali, la rotazione. Sì, però vorrei dirti, dai, anche, capisco che ti appassioni. Non mi appassiono, non me ne può fregare di meno. Però ti vorrei dire che chi ascolta, secondo me, che tutti i giorni alle 18.30, anzi alle 19.20, beh, cosa fa? Cosa farà la Spinelli? Andrà a Strasburgo oppure no? Ecco, non credo. No, è un argomento che veramente non mi appassiona. Voglio segnalare semplicemente che c'è un'ipotesi rotazione, ma non ce ne frega niente. TG3, vabbè, vediamo come TG3 affronta la vicenda Mose che riguarda il Partito Democratico. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Maxi operazione a Venezia per presunte tangenti legate al Mose, 35 arrestati, il sindaco Orsoni ai domiciliari, chiesta la custodia per Galan. Il discusso progetto di difesa di Venezia, Lupi, finire l'opera, 5 Stelle, larga intesa in manette, l'ex governatore Io Estraneo, Fassino, difende il sindaco. Allarme tasse della Corte dei Conti, oltre la media UE, Confindustria Italia, ultima tre grandi, slitta il bonus IRPEF per famiglie numerose. Contro la delocalizzazione e il lavoro nero scioperano gli 80.000 operatori dei call center, in migliaia in corteo a Roma per chiedere regole certe. Riforma del Senato, battaglia di emendamenti in trincea, Lega e Forza Italia, Renzi non dobbiamo arretrare, Grillo dopo Farage scrive ai Verdi. 4 anni di carcere, 9 poliziotti che 4 anni fa picchiarono a sangue Stefano Gugliotta dopo la finale di Coppa Italia a Roma. Il 4 giugno di 20 anni fa ci lasciava il genio malinconico di Massimo Troisi, uno dei più originali attori e registi italiani a teatro e al cinema. Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito. Una delle notizie più incredibili di oggi, popolo della radio, popolo della zanzara, è che Giovanardi, Carlo Giovanardi, ci sarà il ballottaggio a Modena per il sindaco, lui ha preso al primo turno il 3%, una cosa di questo tipo. Vabbè, insomma, Giovanardi appoggia il candidato dei 5 Stelle contro il candidato del Partito Democratico. È una situazione che già si è verificata per esempio a Parma, dove il centrodestra locale all'epoca appoggiò Pizzarotti contro il candidato del Partito Democratico. Si ripete la stessa cosa, ovviamente siamo su altre percentuali perché oggi Giovanardi non è più in Forza Italia, è nel partito di Alfano. Perché dice è una persona per bene, un cattolico, questo dei 5 Stelle, no? Chissà se Giovanardi avrà un peso nell'elezione del sindaco di Modena, lo stesso Giovanardi che dice di battersi lancia in resta con lo spadone da cavaliere, Giovanardi contro il divorzio breve. Speriamo non ce la faccia qui, lo dico anche, come dire, no? Quasi per... in questo caso per interesse personale, sì, anche tu dovresti interessarti di questa vicenda, anche tu dovresti come no, certo, anche tu io non mangio grazie a Giovanardi, diciamo. No, ma che c'entra, anche tu dovresti sperare che Giovanardi non ce la faccia, dovresti sperare che il divorzio breve passi molto velocemente, che diventa legge molto velocemente, no? Meglio così, no? Meglio arrivare subito al dunque, o no? Beh, sì, certo. Giovanardi. Sono 800.000 le coppie italiane che purtroppo hanno dissidi aperti fra marito e moglie con i figli e si dilaniano per anni e anni e anni a prescindere dal divorzio, perché qualcuno gli ha detto: avete un problema, avete una difficoltà, non cercate di andare d'accordo, buttate per aria tutto, dopo starete meglio. Dopodiché uno si trova a vivere sotto i ponti, che non c'è più la casa, anche il cinema se n'è interessato. No, adesso questa cosa dei ponti non la capisco. Cioè, siccome spesso i mariti... No, perché ieri a Matrix hanno mandato un servizio in cui hanno fatto vedere il caso di un padre separato. Sì, che, d'accordo. Che c'entra questo col divorzio breve o col divorzio lungo? Ah, no, non c'entra niente. Assolutamente nulla. Ma non c'entra niente. È evidente che c'è un problema di padri separati che magari non hanno soldi a sufficienza per campare bene. Su questo non c'è dubbio, è un problema annoso, no? Però che c'entra, se due decidono di separarsi è meglio farlo subito, ma Giovanardi dice beh no, perché se uno butta subito tutto all'aria poi finisce sotto i ponti, ma ci finisci lo stesso sotto i ponti anche dopo 2 anni, dopo 3 anni, è uguale, no? Vabbè, incredibile. Carlo da Roma. Carlo? Sì, dimmi. Pronto, buonasera. Allora, io volevo semplicemente, cioè io sono un libero professionista che sta dalla mattina alla sera a battere il marciapiede come la migliore delle prostitute per cercare di mettere insieme il pranzo con la cena. Questo momento è veramente difficile. Sì, sì. E volevo esprimere l'ennesimo schifo, disgusto per la storia del Mose che segue a brevissimo quella dell'Esto, quando qualche anno fa il tasso hitleriano, nazista, populista, fascista aveva già denunciato queste cose, e volevo dedicare questa vicenda. Non ho capito chi aveva denunciato queste cose. Aveva già denunciato Grillo già ne parlava. Grillo non si è mai occupato di Mose, ha parlato genericamente di affari, di inciuci e trasversali, tutta questa classe politica che è popolata di figlie di Fantozzi, di Lupi o Fernandelle, Giovanardi, che mettono avanti battaglie di bandiera ormai passate in un paese. Vabbè, allora la conclusione, al di là del suo schifo, qual è la conclusione secondo lei? La conclusione, cioè, se questo scandalo fosse scoppiato prima, Grillo avrebbe preso più voti? No, assolutamente. Il popolo italiano è troppo stupido. Ma anche perché un altro scandalo già c'era stato, abbastanza trasversale, anche quello. Ma noi non ci vacciniamo di fronte a queste cose. Ma noi io chi? La soluzione ce l'avrei, il carcere per questa gente. Noi applicherei lo spot della trasmissione di Milan la mattina, una bella zappa da 7 kg e a Bangala Terra sta gente. Servizi sì, sociali. Le voglio segnalare che non è che c'è già una sentenza di colpevolezza, però voi dovete subito andare oltre la zappa sui piedi, l'olio di ricino, l'impiccagione, eccetera eccetera. Va bene, Massimo, provincia di Pescara. Va bene così, evidentemente dobbiamo anche noi allinearci, Parenzo. Cosa vuoi No, dire? Io non mi allineo, non è che mi Massimo allineo. Provincia di Pescara, però è uno scandalo che il Partito Democratico. Non è che io mi devo allineare alle ghigliottine. Lo cioè, scandalo qua... è che il Partito Democratico, il Partito Democratico, che in altre occasioni abbiamo sentito sì, prima il sindaco Emiliano, in altre occasioni avrebbe chiesto le dimissioni immediate, questa volta sono non chiedere le dimissioni di Orsoni. Sono d'accordo. Ferdinando da Novara, dai, Ferdinando, d'accordo. Poi Massimo dalla provincia di Pescara. Ferdinando Novara. Salve, niente, io proprio su questa parola scandalo, devo dire che è uno scandalo perché questo tipo di paradosso, cioè dire, io sono garantista, per me non si dovrebbe dimettere, però il PD, siccome chiede sempre le dimissioni, uno dovrebbe certo, a questo punto, certo. Ma se non è coerente, Cruciani, dovrebbe dire, per una volta bravo il PD che fa come dico io, che sono garantista. No amico mio, perché in altre occasioni avrebbero fatto il contrario, in altre occasioni avrebbero chiesto l'impiccagione per quelli che vengono arrestati, magari per un avviso di garanzia no, anche se c'è qualcuno che per un avviso di garanzia vorrebbe far dimettere tutti. Ma la mia è fino a se stesso, la mia fa un valore perché io sono garantista. Vabbè, non sento niente. Massimo, provincia di Pescara, dai. Oh, Giuseppe, ciao, buonasera. Dimmi Massimo. Senti una cosa, ma tu prima che cominciamo a parlare, mi raccomando, quel faccia gialla che c'hai a fianco, lo devi fare stare zitto, che sennò quel ci interrompe. Ma che c'entra faccia gialla, dillo. Ma che vuol dire faccia gialla, scusami? È un modo di dire pescato in forma di la Razzi, Antonio Razzi, quello te lo sa spiegare bene. Faccia gialla, no, ma secondo me. Dimmelo tu, no? Perché lo devo chiedere a Razzi? Ma Razzi te lo spiega proprio in italiano corretto. Che vuol dire faccia gialla? Lo vuole sapere anche Parenzo? Che vuol dire faccia gialla? Posso andare a letto anche senza. Sciapito, come ti voglio dire? Sciapito, vabbè, capo. Metti a posto la comunicazione e ci sentiamo dopo la borsa. Ringatto, che ormai è tutto finito. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Se stai cercando agenti è garantito che agenti.it è il meglio sito. C'è stanno agenti e venditori di tutto il mondo e di tutti i settori. 12.000 le aziende clienti, 200.000 gli agenti presenti. Agenti.it. Scusa se è poco. Alluminio. Metalli. Futuro. Tutto questo è Medef, l'expo dedicato alle tecnologie su misura per la filiera dell'alluminio e dei metalli innovativi. Insieme a Foundec, Metal Riciclo e Alumotive, ti aspetta con soluzioni all'avanguardia dal mondo della fonderia, del riciclo e della componentistica per automotive. Verona Fiere, 11-13 giugno. Metef.com. Sono Egidio, qual è il suo problema? Ah, ecco, sto cercando di capire come diavolo funziona. Scusi, il nostro servizio supporto ai software gestionali si limita a un supporto psicoemotivo, non tecnico. Se no, si chiamerebbe appunto supporto tecnico. La difficoltà d'uso del tuo gestionale è un problema solo tuo? Ora puoi cambiare. Da 35 anni, Team System sviluppa una gamma di innovativi software gestionali per aziende e professionisti, pensando a chi li usa. Semplifica la gestione della tua impresa con Team System. www.teamsystem.com. Questo spot di Ruota Libera, che prevede 2 mesi gratis di RC Auto se includi furto, incendio e infortuni conducente, sta andando sempre più veloce per dimostrarti che superare i limiti di velocità serve solo a farti consumare più energia! Più usi la testa, più ci guadagni. Con Ruota Libera di Sara Assicurazioni, se includi furto, incendio e infortuni conducente, hai 1 mese gratis di RC Auto sui 12 acquistati. Se le aggiungi entrambe, i mesi gratis sono 2. È tempo di usare la testa. Fai una quotazione su sara.it o in agenzia. Offerta riservata ai nuovi clienti valida fino al 30 settembre 2014. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su sara.it e in agenzia. M come miglioramento continuo. M come module block. Vi presenta... Borse in diretta. Il listino milanese ha recuperato sul finale, ha chiuso a meno 0,16%, una seduta vissuta all'insegna delle vendite. Intorno alla parità le altre borse europee che preferiscono usare cautela in attesa domani delle mosse della Banca Centrale Europea. Tra le ipotesi degli analisti il taglio del costo del denaro già al minimo storico e l'acquisto di titoli magari in dollari. Intanto Wall Street al momento è positiva, il Dow Jones segna più 0,11%, il Nasdaq più 0,43%. A Piazza Affari male World Duty Free meno 2% e Fiat meno 1,8%, che ha risentito dei dati sulle matricolazioni di maggio in Italia. Per contro la migliore sul FTSE MIB è stata Finmeccanica più 3,4%, seguita da Telecom più 2,6%, in attesa di novità nell'azionariato e sul ritorno delle voci su una fusione tra Wind e Trenitalia. Lo spread è stabile sotto quota 160 punti. Sul mercato valutario l'euro tratta 1,36 nei confronti al dollaro, petrolio a 102,76 dollari al barile. Per ora con la borsa è tutto, grazie per l'ascolto. In collaborazione con borsaitaliana.it. La capacità attacca, il tasso si chiude in difesa. Veicoli commerciali Opel, capacità massima, tasso minimo, 700 soluzioni di carico con un finanziamento speciale. Esempio, Movano tuo con TAN 395 TAEG 584 su opel.it. 100 miliardi di neuroni che in meno di 20 millisecondi si scambiano dati attraverso un reticolo di fibre nervose lungo 160 chilometri. Tutto questo per arrivare a... Mamma, guarda! Sono un drago mangiafuoco! Immaginare è complesso, ma a noi viene naturale, perché le cose semplici sono quelle che funzionano meglio. Con Fineco è così. Tutti i servizi e un consulente per i tuoi investimenti in un unico conto a zero canone. Semplice, come immaginare. Fogli informativi su fineco.it presso i promotori Fineco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Sei azionista Acque Potabili? L'offerta sale 1,20 euro ad azione e si prolunga fino al 6 giugno. Aderisci all'offerta pubblica d'acquisto promossa da Sviluppo Idrico. Chiedi alla tua banca. Il documento di offerta è disponibile sui siti internet del gruppo IREN, di SMAT e di Sodali. Il governo, insieme alle principali istituzioni pubbliche e private, intende sostenere le piccole e medie imprese che vogliono crescere all'estero. Un roadshow per avvicinare le aziende alle opportunità e agli strumenti dedicati all'internazionalizzazione. Italia per le imprese, prossima tappa dedicata alle aziende della filiera agroalimentare, Mantova, 11 giugno. La partecipazione è gratuita. Iscriviti su www.roadshow.ice.it. Conosci il proverbio meglio tronchi che male accompagnati? Mai sentito. E non c'è due senza tronchi? No, neanche. Dai, tieni. E tu conosci meglio un tronchi oggi che una gallina domani? Tronchi, bontà proverbiale, croccantezza mondiale. Da oggi anche nei nuovi gusti pistacchio e latte e cereali. La zanzara. Le zanzare, yeah. Ma vogliamo risentire Micciche sui 4.000 euro, con la pensione da parlamentare non si fa la bella vita. 4.000 euro al mese, Micciche. Ma chi certamente con la sola pensione di parlamentare non si possa campare, bene, bene, poi per carità, non esageriamo, c'è chi vive con 1000 euro al mese, per cui io posso vivere con 4, però effettivamente per chi ha 3 figli, di cui 2 che stanno fuori Palermo e bisogna camparli pagandogli la casa e quant'altro, posso garantire che con la pensione di parlamentare non si fa una bella vita. Cioè, per chi ha delle spese come 2 figli che stanno fuori Milano, 3 figli, quello che è, 4.000 euro non sono tanti, ma magari ha ragione lui, però certo, insomma, non è, secondo me non è il massimo dirlo, ecco, no? No, anche non sono tanti dirlo. Italiani che hanno figli, che vivono, che studiano. Ma cos'è che ha detto Bianconi? Che guadagnano meno. Poi alla fine essere immondo, no? Essere immondo. Immondo. Allora, eravamo con Massimo dalla provincia di Pescara. Non ho capito, Massimo, cos'è che va bene o non va bene. Allora, Giuseppe, c'è un problema grave. Se, come ti ripeto sempre, se il faccia giallo tiene la ridaglia con sto faccia giallo. Mi dici che significa faccia giallo? Si parla. Dimmi che cos'è faccia giallo. Devi parlare gialla, tu dimmi. Intanto. Vabbè, allora, ti volevo dire. Ci sta sto jingle che mandati in onda. Che questo lo deve dire la Roberta Napoletano, quelli che fanno tin tin tin. Vabbè, allora i jingle, non ti piacciono i jingle, non ti piacciono i jingle. Lo devi cambiare, tu devi agire. Sì, amico mio, ma io che c'entro? Ma io che c'entro? Stato, dai. Allora, tu già Roberto Napoletano, il direttore... La ma che me ne frega di cambiare, ma mica che è responsabilità mia. I jingle. Ma allora, che dobbiamo dire? Ma scusa, ma caro jingle, amico mio, uno chiama tu, Massimo, per tu jingle, chiami chiama. Dicendo ti fanno schifo i jingle di Radio 24, è giusto? È bravo. Ma a me che cosa me ne frega? A me, ma fai una lettera. Ti piacciono i jingle della Zanzara? Ti piacciono i jingle della Zanzara? Se no, guarda, a posto di faccia gialla, se apparenza gli va bene, ciccia cola. Ma questo è drogato, cioè Massimo, no, poverino, ti sei fatto 2-3 canne stasera. È malato, ti sei bevuto qualcosa, sicuro, No, io sto alla guida, non posso bere. Non può, adesso non puoi, ecco, hai bevuto prima. Certo, questo è chiaro che non può bere. Beh, giustamente, un po' prima, un bicchiere. Vabbè. Comunque, tu mi raccomandi, sto jingle. Sì, vabbè, Lito, quale jingle vuoi che tolga? Dimmi. Quello che fa tin tin tin. Com'è che fa tin tin? Ma questo è quando tra una pubblicità e l'altra. Quando c'è la pubblicità. Vabbè, ma questo è tra la pubblicità e l'altra. Le orecchie. Vabbè, ti fanno male le orecchie, vabbè. Vabbè, bravo, adesso... Solo tu ce la fai, solo tu ce la puoi fare, capito? Grande, puoi fare. Sì, ma può darsi pure che faccia male le orecchie o che sia una cosa che non si può sentire. Ma dai, su, ma faccia gialla, che vuol dire, Massimo? Faccia gialla, che faccia vuol faccia gialla, dire? Allora, diciamo, ce l'hai presente l'acqua delle maccarone, degli spaghetti, l'acqua, sì, quella, sì. Capite quanto è? Sì, sì, allora? Poi casa è un po' giallognola. Sì, e allora che Parenzo ha la faccia gialla? È bravo, no, è un modo di dire. Ah, perché ha un... giallognola. Sì, ma è un modo di dire, tu vuoi dire qualcos'altro, che vuol dire faccia gialla? Un coglione, un imbecille, un cretino, che vuol dire? Ma insomma, non mi fa delle male parole, ma ho detto cicciacola. Cicciacola, che vuol dire cicciacola in abruzzese, che vuol dire? Cicciacola è un uccello, la gazzaladra. La gazzaladra, cicciacola, la gazzaladra. Vabbè, sono tutte metafore, tutte parole in abruzzese. Vabbè, Massimo. Stridolo, sì, vabbè, ciao. Francesco, provincia di Caserta, ciao. Francesco. Salve, io sono, sì, vivo qui anche se sono originario di Bari. E chi se ne frega? Ah, no, perché c'era prima Emiliano, sì, no. Sì, no, ma per una particolarità, perché faccio parte della famiglia proprietaria del Teatro Petruzzelli. Ah, ecco, bene. Allora? Bene. Allora, il Teatro Petruzzelli è stato ricostruito, come oramai è noto, sia alle cronache giornalistiche che giudiziarie, attraverso la cricca della Protezione Civile, grandi eventi. Sì. E a questo appalto avvenuto con... un tentativo di esproprio è andato poi male perché la Corte, sì, Costituzionale lo ha cancellato. Andiamo veloci però, andiamo veloci. Ha assistito il sindaco di Bari, Michele Emiliano, che conosco da più di 30 anni, ha assistito un sindaco magistrato, esperto, antimafia e anche un presidente della regione che per 14 anni è stato in commissione antimafia, ma nessuno dei due si è accorto, sì, di un appalto che è cresciuto del 156%. Sì, però, Francesco, non possiamo metterci a fare adesso la storia del rifacimento dell'appalto. l'appalto per il rifacimento del Teatro Petruzzelli a Bari. Francamente non la posso fare qui. Che cosa vuole dire in sostanza? Voglio dire che rispetto al discorso Mose, al discorso del garantismo, al discorso del PD che è coinvolto in certe situazioni, purtroppo sui grossi affari, io l'ho vissuto sulla mia pelle e i baresi l'hanno vissuto sulla loro, su grossi affari ci sono delle correnti trasversali, non dico nulla di nuovo, ma ci sono i correnti trasversali assolutamente di affari tra le varie correnti dei partiti, su cui però anche come dire, anche l'evidenza di alcuni fatti giudiziari è importante. Sì, ma cosa, ma lei adesso ci sta facendo, ci sta dicendo la sua sulla trasversale. Certo che sono trasversali. Uno c'è la richiesta di arresto per un esponente di Forza Italia, Galan. L'altro è il sindaco PD di Venezia, più trasversali così si muore. Perfetto. Infatti, e allora cosa voglio dire che purtroppo ci sono ancora delle vicende su cui ancora questa trasversalità c'è stata ma ancora non è emersa, non è emersa perché ci sono anche di inchieste che trasferite da Bari a Roma solo perché sollecitati dalle parti private che non sono mai state ricevute nonostante quattro richieste ufficiali di incontro dal capo della procura di Bari sono finite trasferite a Roma contro ignoti. Allora quello che voglio dire è che questa trasversalità è ancora, ha funzionato già per altre vicende, purtroppo è ancora all'opera. Va bene, grazie di avercelo segnalato, grazie. La zanzara è quell'odioso insetto. Augusto, provincia di Siena, buonasera. Buonasera. Sì. La cosa incredibile è quando una persona non ha niente da dire, però si dilunga per tre minuti sul nulla. Sul nulla. Augusto, provincia di Siena. Ci sono altre inchieste in cui sono coinvolti PD, Forza Italia, lo sappiamo, grazie. Augusto, provincia di Siena. Non mi dilungo, sarò breve. No, non mi riferivo a lei, all'ascoltatore di prima. Ah, sì, sì, sì. No, è iscritto al PD, sconcertato, semplicemente sconcertato. E il sindaco dovrebbe essere un ex sindaco, si dovrebbe dimettere immediatamente, rispetto della città. E poi, come qualunque cittadino, può essere accusato giustamente o ingiustamente, si difende e racchiude lì. Poi eventualmente ritorna a fare il sindaco o ritorna a essere una persona. Guardi, io sono contrario alle dimissioni di Orzoni, dopodiché è ai domiciliari. Sì. Bisogna vedere quanto durano i domiciliari. Evidentemente, se questi arresti durano due mesi, istanza di scarcerazione, uno non può fare il sindaco. Oggettivamente, non può fare il sindaco. Dopodiché, l'atteggiamento incredibile del Partito Democratico è che di fronte all'arresto di un suo esponente, ci sono persone che dicono: beh, io lo conosco come una persona onesta, no? Per carità, io metto la mano sul fuoco su Orzoni, ma se nei confronti di altri usate il mitra o usate il mitragliatore solo per gli avvisi di garanzia, vi dovete vergognare se dite così. Vi dovete vergognare, il doppio pesismo fa schifo. Io non uso il mitragliatore, io uso una logica e anche una sensibilità, diciamo. Se uno è indagato, tra l'altro in questo caso è indagato anche per pesantemente. No, non è indagato, è stato arrestato, è diverso, certo, poi è indagato. Pesantemente c'è un arresto, quindi viene di conseguenza, qualunque cittadino deve rispondere ai propri elettori. Non appaio in questo momento pulito, non appaio, no? Sì, bene, sì. Mi tolgo di mezzo un momento, poi tornerò a far politica eventualmente. E avrò ancora più dignità se mi sarò difeso da libero cittadino che non ha condizionato la città. Cioè, ma a me sembra talmente una logica. Lei da esponente, diciamo, da elettore del Partito Democratico è schifato da questa situazione e dice Orzoni si deve dimettere. Diciamo però una cosa. Sì, dimmi che c'è. Cioè, a fare l'inchiesta è un signore che si chiama Carlo Nordio, no? Sì. Allora, che c'entra? Come? Che c'entra? Allora, a differenza del passato, qualcuno potrebbe dire ecco la toga di centrodestra, no? Perché invece del centrodestra, quando ci sono cosiddette toghe rosse, almeno non abbiamo assistito, diciamo, da parte del Partito Democratico all'etichettatura. Ha chiesto l'arresto di Galan. Ha chiesto l'arresto di Galan. Sì, però sono due reati diversi. Ha chiesto l'arresto di... Ma che c'entra? Ha chiesto nella stessa inchiesta ha chiesto l'arresto di Galan. Orsoni, certo che non l'hanno etichettato come di centrodestra. È ai domiciliari per finanziamento. Abbiamo già illecito. Detto, ma ha chiesto quell'altro perché ma avrebbe... certo che non lo potevano accusare di essere allora, vicino al centrodestra, ha chiesto l'arresto di Galan. Ma d'accordo, ma siccome in passato c'era stata, come dire, l'etichettatura del dottor Nordio definito, vabbè, mi sembra un dettaglio, toga di destra. Ho capito. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Pellegrin di Radio Padania vuole il test antidoping, anzi sì, test antidroga per noi, test antidroga, Pellegrin. Per noi? Sì, sì. sempre pronto naturalmente, la sfida è con gli sguattri del padrone. Facciamo un test antidroga con chi mi dà del razzista. Facciamo un bel test antidroga. Vi sfido a farlo. Vi sfido a fare un test antidroga con sottoscritto. Scegliamo un giudice terzo che decide il giorno. Io e voi facciamo un test antidroga. Vediamo come va a finire. Naturalmente cadrà nel vuoto questa sfida. Figuriamoci, poi quei soldi che prendono, chi glielo fa fare di perdere magari la faccia? No, guarda, caro Pellegrin, se qui fai un test antidroga, io sono pronto a farlo, anche se non te lo concedo questo test antidroga, sono pronto a farlo, ma non ho problemi a dirlo. Guarda, qui sicuramente non risulta nulla. Non so, dalle parti di Parenzo può darsi che qualche cosa di cannabis possa risultare. Però ormai è tanto. Però non so per quanto resta poi la cannabis, non so per quanto resta. No, resta per quello. E poi è tanto ormai. E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone, un beneamato cazzo. Ti dico, caro Pellegrini, se qui c'è qualcuno che ha un padrone, quello forse al limite, io non l'ho mai detto, al limite sei tu, cioè la Lega Nord, amico mio. Qui non ci sono padroni, non abbiamo padroni. Non ti preoccupare, non siamo sguatteri del padrone, perché noi non ce ne frega niente di Squinzi, della Confindustria, degli industriali, non ce ne può fregare di meno. Sappiamo per chi lavoriamo, sappiamo per chi lavoriamo, è evidente, ma non ce ne frega niente. Amico mio, non ce ne frega niente, anzi, spesso abbiamo dei casini. Il potere falso che ci spreme. Alessandro Milano. Di onnipotenza che ci ha reso schiavi. Alessandro Milano. Pronto? Sì, dimmi. Oh, e dai, forza. Ecco qua, volevo solo dire una cosa. Sì, ma togli il viva voce, per favore. Ragione. No, ma hai ragione, ma perché mi dovete far arrabbiare? Perché mi dovete far arrabbiare? Perché non funziona l'affarino. Vabbè, ciao. La Zanzara. Siamo come lei, siamo come lei. C'era Alessandro da Milano? Alessandro, allora ci sei? Forza. Sì, sono qua, sono qua. Oh, no, volevo solo dire che se uno sente queste notizie sul MOSE come tante altre, la conclusione che tira è che praticamente tutto il sistema politico italiano è corrotto, perché l'uomo della strada pensa così. Dove Beh, purtroppo devo dire che spesso è così. Ecco, però allora io faccio un ragionamento molto semplice. O accettiamo l'idea che siamo il peggior popolo al mondo, perché sì, questa è un'ipotesi, oppure ci potrebbe essere anche un'altra spiegazione. La mia spiegazione è che c'è troppo Stato dappertutto. Allora, più c'è Stato e più c'è corruzione. Non è possibile che noi siamo un popolo così schifoso per cui qualsiasi politico italiano è più corrotto di un politico di un altro paese. È perché c'è talmente tanto Stato, e lo Stato fa tutto, controlla, fa le regole, le applica. Ci sono procedure troppo complesse, no, procedure troppo complesse, e in più c'è un'imprenditoria, che dillo tu Parenzo, un'imprenditoria. Io che penso questo, te l'ho detto stamattina, forse sarai d'accordo, c'è una parte dell'imprenditoria italiana, una parte, certo, una piccola da scialtroni. Fatta da stracciasederi, stracciaculi, che vivono solo di commesse pubbliche e con i rapporti con il pubblico. Una parte piccola dell'imprenditoria italiana, piccola, che non sta lo so lì quanto piccolo, ad aspettare. C'è Expo, vum, aspetta che mi infilo. C'è MOSE, vum, aspetta che mi infilo. Aspettano soldi pubblici. Quindi la colpa sì è anche del politico brutto, sporco e cattivo, d'accordo, che sta lì, si fa stipendiare, oppure forse prende la mazzettina, forse, o altri casi dal nord al sud Italia, di quello che dici, ti do la concessione. Ma questi di sono soldi, sì, che paghiamo noi, perché se un'opera pubblica viene pagata 3 o 4 volte, sono soldi che cacciamo noi. Però questo che è l'unico paese d'Europa, del mondo non lo so, ma d'Europa sicuro, in cui molti imprenditori aspettano che la mamma Stato, che ci siano delle commesse con lo Stato, perché se no c'è il famoso rischio di impresa, no? Quello che purtroppo, certo, non tutti vogliono correre. Noi siamo figli delle stelle. Allora, grande ritorno alla Zanzara del senatore del Movimento 5 Stelle Giarrusso, Michele Giarrusso. Scuso ogni volta. Io mi confondo, perché io in realtà non do alla parola senatore una grande importanza. Ma sbagli? Va bene, è molto bello, a me piace molto. Ma onorevole, semplice, basta che ti concentri, pensi, hai presente la ghigliottina Robespierre? Appunto. Cittadino. Ah, ecco, quella cosa è di violento. Ma lei la ghigliottina la vorrebbe anche per quelli del MOSE? No, e per quale motivo? Solo per quelli, anche per quelli della TAV, per quelli del D-Expo, ma c'è di tutto, il sistema è lo stesso, è un sistema unico. Cioè lei dice, è a Napoli lo chiamano lo sistema, sì, ma è quello dei mentecatti e la camorra, poi c'è quello sistema vero, quello della politica che banchetta con i soldi dei cittadini, spartendosi gli appalti pubblici. Non è vero che c'è troppo Stato non ce n'è niente, perché fanno le norme per cancellare tutte le norme dello Stato. Però scusi, per questi qua, per questi tutte le norme sono tutti appalti dati con procedure emergenziali d'urgenza, noi abbiamo detto d'urgenza, cosa fanno? Derogano, perché derogano? Perché queste imprese non possono partecipare agli appalti legalmente, non li vincerebbero con le procedure quelle vere, mettono fuori mercato le imprese sane che ormai sono al collasso. Non è vero che sono una piccola parte delle imprese, la parte del leone in questo momento le hanno fatte le imprese marce, che hanno buttato fuori mercato le imprese italiane. Che cosa succede? Nel nostro mercato non vengono nemmeno le imprese straniere, perché ci schifano, sanno come funziona e neanche passano, ma le nostre imprese non vanno nemmeno nei mercati stranieri. Però scusi Gianrusso, io voglio capire una cosa, per chi? Perché qua vincono soltanto quando barano, ha capito? Hanno ucciso l'impresa, hanno ucciso il lavoro, hanno rubato il lavoro alle persone. Però scusi Gianrusso, lei per questi responsabili, che poi bisogna provare tutto, vorrebbe la pena massima? Cioè lei taglierebbe le mani a questi qua, Orsoni, Galan, se fossero... No, perché le mani? La testa, ho detto, la ghigliottina, mica tagliamo le mani, veramente... non erano barbari in Francia, erano evoluti, hanno scritto la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ma veramente no? Ci vorrebbe la ghigliottina per questi, dice lei? E certo, ma certamente. C'è ma la pena di morte? Cioè la pena di morte ci vorrebbe? La ghigliottina. Vabbè, ho capito, la ghigliottina... è una cosa triste. Una cosa è la stessa cosa, scusi. Ma è più evocativa. Ci vorrebbe la ghigliottina, vabbè. Sa che fine ha fatto poi Robespierre, il periodo del terrore, comunque. Ma ci vuole, però ha mandato la Francia nell'età moderna, si sono sbarazzati di una classe parassitaria che viveva sulle spalle del popolo affamandolo, vi ricorda qualche cosa? Cioè, ma veramente lei pensa adesso fame e loro banchettavano, le ricorda qualche cosa? Ma è un paradosso questo, Gianrusso? Cioè... No, non è un paradosso, sono sistemi che si ripetono. Noi abbiamo ricreato una classe parassitaria, là erano i nobili, qua si chiama casta. Ho capito, casta, ma non si può applicare... Il taglio della testa. Ma il taglio della testa non è possibile farlo. Il taglio della testa si fa con l'applicazione di norme serie e severe che li mandino in galera, non li facciano uscire. Invece qua, sa che cosa chiedono un giorno sì e l'altro pure? L'amnistia e l'indulto. Vabbè, questo è un altro discorso. Ma secondo lei... Lo chiedono i colpevoli. No, ma lei su questo, io sono contrarissimo all'amnistia e l'indulto, Parenzo a favore, figuriamoci. Ora voglio chiedere una cosa. Molto ovvio, a favore. Ma scusi, ma lei, ma Greganti, di quale partito aveva la tessera? Del PD? Sì. No? Sì. Il sindaco di Venezia, di quale partito aveva la tessera? Del PD. E quindi che cosa vogliono questi? L'amnistia e l'indulto, è ovvio, per i loro amici che sbagliano, insomma, che non si fanno peccare. Io non è che sono amico o nemico. Guardi, oggi, amnistia e indulto sono provvedimenti che... Abbiamo avuto una in Senato bellissima. Cioè? Abbiamo avuto una visita importante, un condannato per mafia. Sì, lo so, ho letto. Cioè, che era... ma lei ha capito che giorno è oggi? Lombardo, chi Lombardo, era? Ma oggi è mercoledì. Vabbè, adesso è condannato che è in primo grado, secondo grado, che è? Cioè, non mi ricordo adesso. È in primo grado, no, ma lei ha capito. Oggi è mercoledì in Senato, il giorno in cui veniva Greganti. Quindi il poveretto forse magari cercava il tavolo di Greganti, non l'hanno aggiornato che Greganti è in galera. O forse si riuniscono anche senza Greganti, non so. Vabbè, adesso sono due cose diverse, Greganti e i condannati per mafia, non è che sono... Ma sta scherzando, ma sta scherzando, il sistema è quello, ma che fa scherzo? Però, il scusi, ho capito. Il sistema è assolutamente quello. Se avessero arrestato Orsoni e altri prima delle elezioni, avreste vinto? No, avrebbero preso il 42% invece del 40%. Perché? Perché dice ma come perché? Ma vedete che sono stati premiati. Cioè la colpa è degli italiani, la colpa è degli italiani. No, non è degli italiani. In qualunque paese civile la stampa, ma noi non saremo agli ultimi posti per libertà di stampa, non avrebbe mollato l'osso su Greganti. Avrebbe cercato di capire chi incontrava il mercoledì, tutti i mercoledì. Ma infatti in qualcuno lo sta facendo, qualcuno sta cercando. Non ma è che... chi? Invece erano tutti là a dire che Grillo era Hitler, che Grillo spaventa le vecchiette. Vabbè, non mi dica che non ho capito. Come Greganti, come il sindaco di Venezia. Cioè, c'è una relazione tra Greganti e Renzi, è questo che lei sta dicendo? mi pare che abbiano in comune la stessa tessera di partito, e uno addirittura è segretario di quel partito. Quindi lei sta dicendo lui la tessera. Però scusi, no, ah, gliel'ha firmata lui, ma nel senso questa è una sciocchezza, è la sezione del Partito Democratico a Torino, dai, non ne sapevo. No, ma sa che dicevano in Senato, ma quello è un vecchio che millanta. E dico, vabbè, allora secondo di Venezia che cos'è? Un altro vecchio che millanta? Questo è un sistema. Ma scusi, secondo lei Orsoni dovrebbe stare in galera e non a casa? Dovrebbero stare in galera. In galera, ma quello infatti sta ai domiciliari. Le galere piene dei poveri cristi che non hanno commesso quasi nulla. E invece, Orsoni sta ai domiciliari, i dice lei. I bianchi stanno a casa, al sicuro, comodo, perché garantiscono a questo domiciliari sistema la sopravvivenza. Ma è ai domiciliari. I domiciliari dovrebbero togliere in galera. Mamma mia, io tremo. Ma io tremo quando parla Giarrusso. Ma perché? Anche i domiciliari vanno tolti. Ma perché lei anche i domiciliari vanno tolti. Ma lei trucca gli appalti, no? Ma io faccio il giornalista, ma quali appalti truccati? Mi fa paura un paese in cui lei evoca la ghigliottina, via i domiciliari. Ma in quale garanzia? Ma il pentastellato è un regime, cazzo. Ma neanche il paese, diciamo. Noi viviamo nel paese che in Europa è il primo per corruzione. E lei mi dice i domiciliari, l'amnistia, l'indulto, detto la riduzione delle pene. No, io non ho in galera, ha detto Giarrusso. Un attimo, pubblicità, torniamo subito, cerchiamo di sentire meglio perché Giarrusso è in movimento, si fermi e si mette da qualche parte. A tra poco. C'è un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, da chiudere subito, guardi, da chiudere. La Zanzara. Pungete, ciao. In culina, in campagna, in mare. Zanzare. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Immondo che smetta di urlare. Sì, sei un essere immondo, perché te non fai parlare la gente? No, ragazzi, però non vi offendete personalmente, parlate una alla volta. Continua a berciare sulla voce. Mi mettete a disagio. Ma andiamoci sulla Rai, la Rai. Parenzo, praticamente hai detto pure tu a Giarrusso che è un essere immondo quando sostiene che in galera e nemmeno ai domiciliari. No, immondo non lui in quanto persona. È immondo questo modo di pensare e di proporre una politica in cui addirittura sparisce sparisce l'istituto dei domiciliari. Ma lui ha detto un'altra cosa. Lui no, ha detto che è immondo quel che mondo lì. I poveracci vanno in galera. Non lui, i poveracci vanno in galera, i colletti bianchi. Cioè, questo in parte è vero. Uno come Orsoni non ci va perché è protetto. Però, un momento, siccome... Però Giarrusso, scusami, o ci si fida della magistratura oppure no. Allora, se la magistratura ha disposto l'arresto, perché è una misura... Stare attento, la magistratura disposto l'arresto agli strumenti che la politica gli dà, e in questo momento è un istituto anno che noi lavoriamo in Parlamento per cercare di impedire la riduzione degli strumenti a disposizione della magistratura, cioè la politica che impone alla magistratura. Però perché lei vuole vedere Orsoni in carcere? Ma è in stato di fermo Orsoni, ma perché Giarrusso non lo è? Tecnicamente il sindaco di Venezia è in stato di fermo, ma a casa sua. Però è in stato di fermo. Tre anni fa ho fatto un incontro sulla legalità in un carcere con circa 50 detenuti. E ho fatto una semplice domanda, dico, chi ha la laurea? Sì. Nessuno. Assento qualcuno aveva la terza media o uno o due il diploma, sì. E nessuno dei loro figli andava all'università. Sì. E poi ho detto, ma ci sarà un motivo per cui non c'è nessun laureato qua perché? Dentro? E perché? Perché nelle perché stanno galere tutti non fuori. Ci va, stanno fuori. Cioè, ma lei sta dicendo che il nostro paese. Lei sta dicendo che Orsoni ha avuto un trattamento di favore. Ma di no, dal reato. Io sto dicendo che in questo paese ci si accanisce in maniera severa contro coloro i quali commettono reati da poco. Ma questo d'accordo, ma che c'entra con gli arresti domiciliari o il carcere per Orsoni? C'entra, mentre quei colletti bianchi che commettono reati che danneggiano milioni di persone se la cavano sempre. Con pochissimo, se non niente. Per cui alla fine Berlusconi, condannato a 4 anni, sì. Che si fa 4 domeniche dai vecchietti a disturbarsi. È una vergogna, dice lei. E questo è il frutto di quel sistema che le dicevo. E Orsoni è sulla stessa via, sulla stessa strada. Tutti sono su quella via. Cioè, in Italia più è grave il reato, più rubi alla collettività, meno probabilità. Secondo lei, a Galan sarà data l'autorizzazione a procedere per l'arresto? Ma noi ci batteremo perché accada quello che è accaduto con il deputato del PD, no? Che vada subito in galera, dice lei. Ma per direttissima, senza passare manco da casa. Senza passare da casa, questo paese. A casa, potrà passare a prendere la sua roba o no? Italiani, ma meno male che non fa il jeep, Gianrusso. Meno male che Gianrusso non fa il jeep, guarda. Gli italiani sono sottoposti giustamente al rischio di finire in galera in base a una decisione di un giudice. Poi ci sono 900 privilegiati, la casta, che non possono fare quello che vogliono senza correre questo rischio. Cioè, un cittadino normale sarebbe andato in galera senza nemmeno passare da casa a prendere il dentifricio. Esattamente, lo aspettavano e se lo portavano via, capita. Ma la scena di un politico in manette un po' le piace, diciamo la verità. Le dà un senso di giustizia. Non mi piace entrare in un carcere e vedere poveri disgraziati. Vabbè, quello d'accordo, però le dà un senso di giustizia vedere un politico in manette? Ma sicuramente, se ha sbagliato, sì. No, ma un politico in manette le dà un senso di giustizia, di liberazione, che significa? Ma non ce n'è, non li trova. Quell'altro genovese l'hanno mandato in galera alla fine, tre giorni. Vabbè, dopo che la galera più veloce della storia del web. Ma perché già è uscito genovese? No, dopo tre giorni l'hanno mandato a casa. Ai domicili. Vabbè, ma avranno avuto loro ragione per mandarla a casa. Scusa. Ma scherziamo, se era un altro buttavano la chiave. Ma per favore, questi vengono trattati con tutti i riguardi. Abbiamo a che fare. Ci vorrebbe più galera, secondo lei? Ci vorrebbe più galera per i politici? Ci vorrebbe più galera. Ma serio, per questo motivo. Vabbè, ho capito. Questo non è considerato un paese serio. Cioè, lei ha il coraggio di dire che per i politici ci vorrebbe più galera. Ma senza alcun dubbio. Ma noi, ho capito, come dico, senza alcun dubbio? Noi siamo per un aggravamento delle pene. Per i politici. Guardi, gliene dico una che sembra una battuta della Zanzara. Me ne dica una. Invece è venuta fuori da un duo di grandi giuristi. Allora, stiamo discutendo in Commissione Giustizia dell'autoriciclaggio. Sì. In particolare c'è una tipologia di riciclaggio che è famosa, risale addirittura agli anni 70, no? Non so se vi ricordate, quando andavamo nei casinò con il denaro sporco, anche quello dei sequestri per esempio, i due compari compravano le fiche e poi puntavano entrambi la stessa cifra sul rosso e sul nero. Allora? Uno perdeva, uno vinceva, la somma era uguale a quella investita, poi cambiamo le fiche e avevano ripulito il denaro, anche quello dei sequestri. Bene. Tutto questo grazie ai mascalzoni che per 20 anni ci hanno governato. Adesso non è necessario andarlo a fare a San Venzano, al Casino di Venezia, eccetera. Si fa sotto casa, nei luoghi dove ci sono le slot machine. La gente ficca 1000 euro, fa finta di giocare e poi le scarica dalle macchinette e ottiene una ricevuta. Dunque? Come se avesse vinto. Sta riciclando soldi. Bene. Sa che cosa hanno previsto per colpire questa forma di autoriciclaggio che non è sanzionata penalmente? Che stanno facendo? Che questo tipo di attività deve essere finalizzata al perseguimento di un'ulteriore attività di tipo finanziario. Vabbè, ma che vuole dire su questo? No, questo? Allora diciamo, ma dico, ma che attività finanziaria è uno che va alle slot machine e si ripulisce il denaro per i fatti propri? Per esempio un'attività finanziaria? Bene, la risposta del relatore, un insigne giurista, qual è? D'Ascola, che ha chiamato in causa anche un altro giurista, che era il professore Fiandraga, ha detto, ma con Fiandraga ci siamo confrontati e questa attività ha un carattere finanziario. I milioni di poveri disgraziati che ogni giorno giocano alle slot machine e fanno un'attività finanziaria a loro insaputa, sono dei finanzieri. Vabbè, ma che cosa vuole dire con questo? Ma non è una cosa da folli sostenere una cosa del genere. Può darsi. Gioca alla slot machine sta facendo un'attività finanziaria. Le chiedo però un'altra cosa. Qual è la conseguenza? È come una compravendita di azione, sembra una compravendita di azione. Però Gianrusso, andiamo su un altro argomento. L'argomento... No, ma sai qual era l'argomento? Il fatto che loro non la vogliono sanzionare quella cosa. Cioè... allora ripeto, io che però è anche vero, Parenzo, vado a Parenzo, mi fa... le ficco sulla slot machine e poi ottengo una ricevuta come se avessi vinto quei soldi, sì, quei soldi ritornano puliti. Io quando mi fermano e mi accusano di autoriciclaggio con la norma che vorrebbero applicare, ma dove è l'attività finanziaria? Lei ha detto una cosa che è tecnica dal punto di vista, come dire, del diritto e dello stato di diritto è immonda, cioè? Perché già voglio dire, ci sono mille dubbi. No, già anch'io stesso, per carità, ho mille dubbi rispetto alla carcerazione preventiva. Però spesso in questa trasmissione sono quello cosiddetto più manettaro, direbbe, sempre semplificherebbe. Vabbè, Cruciani. Allora vai. Proprio di no, sentire Gianrusso, però sentire il senatore. No, devi smetterla, sei senatore, non rompere i coglioni, sei senatore, non devi rompere le balle. Io ti chiamo senatore perché è bello essere senatore se lo fai cittadino, bene. E stai zitto come anche tu che gli dai manforte. Come ai tempi di Robespierre. Stai zitto anche tu che gli dai manforte. Lui è senatore. Allora ti voglio dire questo, caro senatore. Caro senatore Scusa, Gianrusso. ai tempi di Robespierre Orsoni sarebbe già con la ghigliottina, ai tempi di Robespierre. Sicuro, già sei legato, là, con la testa nel ceppo. E coso e Galan che gli facevamo? La stessa cosa, a ruota, continuamente a ruota. A me spaventa questa roba, la ghigliottina, la metafora. Allora, come la mettiamo con Farage? Come la mettiamo con Farage, cittadino Gianrusso? Come la mettiamo con Farage? Allora, la Confarange è una cosa molto semplice e complessa allo stesso tempo. No, ma è razzista, xenofobo. No, ma quello lo sappiamo, è razzista. Ma ci sono maggioranze e opposizioni. È razzista o no? Guardi, io non vivo in Inghilterra e non ho seguito il dibattito politico inglese. Del nostro paese. Stiamo cercando di capire qual è la collocazione, fermo restando che non è che ci dobbiamo andare a letto con Farage. Ah, su questo non lo so. Fare un governo, questo non lo so. Una maggioranza. Semplicemente se piace così. È assolutamente, semplicemente bisogna trovare una collocazione in un gruppo. Vabbè, ho capito, ma non è che lo vuole. Ma non c'è un gruppo misto dove poter andare se non troviamo una collocazione. Ho capito, ma come una discarica, quelli non allineati. Ho capito benissimo, ma io questo lo so. Gianrusso, come lo considera? Un estremista, un fascista oppure la propaganda che ha detto? Non lo conosco. Allora, innanzitutto io vedo che si usano gli stessi toni con lui e con Grillo. Quindi se io, beh, l'ho già dichiarato, se io dovessi basarmi e valutare Farage sulla base di quello che scrive il Corriere, la Repubblica, l'Unità, sarebbe un pericoloso criminale. Ma assolutamente sì, come dicono di Grillo. Quindi io diffido di questo e cesso di farmi una mia opinione. Fermo restando che ognuno resta con le opinioni che ha. Però Dario Fo è imposimato. Hanno detto che è razzista, è pericoloso, è estremista, è di estrema destra. Votiamo le cose di Farage. Ma no, ho capito. Ma lei pensa che noi votiamo le cose di Farage che non condividiamo? Ho capito, c'è un'alleanza tecnica, però non è che uno si allea. Non è un'alleanza, no. Cioè, lei è disposto ad allearsi pure con Hitler pur di fare gruppo al Parlamento Europeo? Sì. No, per favore, c'è un limite, C'è un limite. Se lei mi ha detto, guarda, per avere spazio al Parlamento Europeo. A Hitler, allora guardi, veramente, guardi, ci sono tanti altri, insomma, almeno è più divertente Berlusconi, almeno. No. Bottine, minorenni, festicciole. No, ho capito, no, però almeno anche... è più divertente, dai. No, cioè ci si allea anche col diavolo pur non di fare il gruppo tecnico. Non è alleato. Vabbè, sono accordi tecnici per il gruppo. Ma non è solo questo, dai. Ha detto che ci sono dei punti in comune. Dai. Guardi, si sta a mettere nel gruppo del PPE, mi segue. Sì. Dove ci sono quelli che, secondo le dichiarazioni di un importantissimo politico americano, complottavano per mandarlo via. Mi segue? Sì, e certo. Che fa? Non si va a iscrivere al PPE perché ce l'avevano con lui, lo volevano cacciare a terra nel culo. Questo è vero, però quali sono i punti in comune che avete con Farage? Quali sono i punti in comune? Può avere lui con quelli voi che punti in comune avete con Farage? Ma quello che le voglio dire è che in Parlamento Europeo non c'è né maggioranza né opposizione. Non regge questa cosa qua, perché qualche punto in comune ce lo dovete avere. Io capisco la cosa di base, Allora, alcuni punti in comune e sono quelli che spaventano la grande stampa che si sta attaccando. Qual è il punto in comune? Allora, il no al fiscal compact. Va bene, tutte le cose europee. No, tutta una serie di cose, il pareggio di bilancio, l'interferenza nelle politiche della sovranità monetaria degli stati europei, sono tutte cose che abbiamo in comune, mentre i signori verdi, che peraltro ci hanno rovesciato una caterva di insulti, questo è peraltro, vero, e questo lo sapete, hanno votato a favore del fiscal compact e di altre cose. Cioè, meglio Farage dei Verdi, lei dice, meglio Farage dei Verdi. Allora, sotto questo profilo, sotto questi profili, sì, perché i Verdi sono compatti e governativi. Non so, ho capito. Senta, un'altra cosa, i brogli, ultima cosa, poi la lascio. Ci sono carità, se ci alleiamo con i Verdi, ma non è un'alleanza, mi segue? Sì, ho capito. È sempre un accordo tecnico, mica votiamo per il sistema. Ma ho capito, però non è un accordo tecnico, non è che può essere a capocchia, un po' con i Verdi, un po' con Farage. No, attenzione, guardi che il PD, le dico una cosa: il PD negli anni passati addirittura ha diviso in due il proprio gruppo e facendo aderire a due gruppi diversi. L'ha fatto negli anni passati. Vabbè, adesso non scendiamo nel... È una cosa tecnica. Ho capito, ma non è una cosa tecnica allearsi con Farage e fare gli incontri con Farage. Ma non è alleanza con Ho Farage. Capito, ma... presentiamo un primo ministro, una cosa, c'è un programma di governo. Scusi, però il suo collega Di Maio, vicepresidente della Camera, ha detto che Farage non è razzista, che sarà primo ministro dell'Inghilterra, che abbia avuto dei punti in comune. Ho capito, però non è solo un'alleanza tecnica. Ho capito. Farà il ministro là con il governo inglese, a me mi fa piacere fare carriera, è un giovane bravo. Secondo me sarà là il più. Senta, ci sono stati dello scacchiere. Ci sono stati brogli alle elezioni europee? Brogli. Allora, guardi, questa questione è molto molto delicata e complessa. Non è delicata, deve consentire di non darle una risposta in questo momento. Avrò il piacere di risponderle quando avrò notizie più. Non le escludo però. Noi stiamo valutando, perché notizie che ci arrivano da tutte le parti, ma che dobbiamo verificare da più parti, sono di cose strane che stiamo verificando. È una questione di serietà, non sbilanciarsi. Certamente noi rileviamo una cosa, i primi a essere sorpresi del risultato sono stati quelli del PD. Sì. Ora noi abbiamo una limitata esperienza politica, questi ne hanno molta di più. Cioè erano sul territorio, quindi per essere stati sorpresi loro. Deve essere successo qualcosa. Esattamente, stiamo cercando di capire che è successo, certamente. Non escludete i brogli, però. Senatore Giarrusso, può escludere qualche cosa, si sente di escludere qualcosa in no, ma è lei che senatore Giarrusso. È un paese in cui può succedere di tutto. Anche che abbiano imbrogliato le elezioni. Scusi, senatore Giarrusso. Ma non sarebbe la prima volta, però le voglio dire, prima Giarrusso, di fare cose così pesanti. Sì, ho capito. Bisogna avere degli elementi. Va bene, ragazzi, devo chiudere. Grazie, senatore. A presto. Grazie a voi, ricordatevi Robespierre, la ghigliottina, pensateci prima di parlare del comitato di salute pubblica, vi ascolto. Non mi contraddica, Fusani, non mi contraddica. La Zanzara. Ma siete una bella coppia comica, là, eh? La Zanzara, che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, eh! La notte mi consuma, mi rendo isterico. Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, protesta su Twitter perché Cabobo è stato condannato solamente a 20 anni. Dice: vergogna, vergogna, meritava l'ergastolo. Signor Cabobo. Sei gelosa più di me. Devo dire la verità, in Italia 20 anni si trasformano facilmente in una decina di anni. Certo, uno che ha preso a picconate tre persone che prende tanto 20 anni dal delitto che commette. E soprattutto le motivazioni, uccise perché emarginato. Cioè, secondo i magistrati, il signor Cabobo ha ucciso perché era emarginato. Capito? Cioè, questo è incredibile, uccise perché era emarginato. Cioè, malattia significativa, poi tra l'altro, ma sapeva cosa stava facendo. Era emarginato, non si è mai integrato, pressato dall'esigenza quotidiana di sopravvivere, il che ha inciso sulla patologia di base, aggravando la sintomatologia delirante ed allucinatoria e la compromissione cognitiva. partita. Adesso sì, devi leggerlo come un trattato di sociologia. No, ma va bene tutto. Però io dico solo una cosa, Io dico solo una cosa. Allora, signor Cabobo, era sicuramente un matto, disgraziato, io però non voglio dire niente, non mi prendete per matto, ma se uno che prende a picconate tre persone col piccone, ma infatti non prende l'ergastolo, ma quando ma lo prende lo l'ergastolo? Condannato. A 20 anni, ma deve prendere l'ergastolo! Scusa, però c'è una logica, o in Italia c'è sempre il cavillo, il dettaglio che prevale, o la paraculata che prevale, ma per non carità. C'è dettaglio per scusa. Uno che esce è in contraddizione con quello che diceva Gianrusso, però uno prima, deve prendere se uno prende a picconate tre persone per strada, ma non c'è dubbio, picconate. Non abbiamo seguito il processo, nessuno vuol difendere quel criminale lì che infatti per fortuna deve prendere l'ergastolo, dai, ma per uno che prende a picconate Ma non c'è discussione. Ma non c'è l'Italia è un paese nei confronti di tutte quelle. Il caso Franzoni l'hai seguito con altrettanta interesse. Uno che prende a picconate tre persone. Ma non c'è dubbio, ma nessuno lo difende. L'ergastolo. C'è un sistema di giustizia che evidentemente è sbagliato. È sbagliato. È sbagliato. È come traffico. Base dello sport. Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto. Abbiamo un'apparecchiatura con la quale gli posso fare apparenza una penoscopia. Vediamo se ci sono delle lesioni sospette. Questo era il dermatologo di Berlusconi che voleva fare la penoscopia a Parenzo. Sì. Alessandro da Milano. Luciani. Sì, dimmi. Sì, ascolta, volevo parlare a proposito di Gianrusso. Sì. Una bestia, un ignorante. Perché ha invocato la ghigliottina e dice che per quello, perché arriverà sempre uno più puro di lui. Il periodo del terrore è durato un anno, certo. E dopo Robespierre che fine ha fatto? Bravo, appunto. Ah, questo evidentemente per lui non è così, cioè vuole la galera per i colletti bianchi, dice Corsoni dovrebbe stare in galera, no ai domiciliari, e dice giustamente che in Italia il carcere però lo fanno solo i colletti bianchi e lo fanno solo i poveracci. Altra cosa che non è vera, beh, insomma è abbastanza vera. Ti ricordi di un signore che si chiama Cusani, ad esempio, ha scontato la pena in carcere, un attimo fammi sentire. Quanto qualunquismo. Quanto qualunquismo. Non risponde. Allora, Gianluca Buonanno mancava. Ma si è dimesso da parlamentare italiano o no? No, perché ha 60 giorni di tempo per decidere. Sì, quindi c'è un periodo in cui uno può prendere tutti e due gli emolumenti, No, quello no, non dire stronzate. No, non dire stronzate. Chiedo. Allora, ma mica solo lui. Ha detto altri. Che vuole fare al Parlamento europeo una lobby eterosessuale. Una lobby degli etero. Beh, meraviglioso, meraviglioso. Perché ormai c'è l'eterofobia, cioè uno è strano, cioè deve un po' vergognarsi a dire che è etero. Poi ha detto che mi fa schifo pensare a due uomini insieme, a due persone dello stesso sesso, e gli fa vomitare l'idea del matrimonio omosessuale. E Nabucco salirà al cielo. Buon anno, parlamentare europeo. Però è buona questa cosa della lobby eterosessuale, che dici? Una stupidaggine mega galattica. La il lobby solito circo. Il circo si sposta da Montecitorio, si sposta e migra tra Bruxelles e Strasburgo con il tendone, le sue spigole, le sue manette, i suoi cartelli, cioè il circo col carrozzoni, col papapara, si sposta di questi camion, e non sono i camion del Parlamento Europeo che da Strasburgo si spostano a Bruxelles una volta al mese, no, è il circo Barnum, targato il circo Buonanno, col suo tendone, con tutta la sua oggettistica, che migra da Montecitorio, la lobby eterosessuale, verso Bruxelles. Migra lì quel circo. Peccato che è uno spettacolo che paghiamo noi. Peccato che? È uno spettacolo che paghiamo noi. È un biglietto che paghiamo noi, diciamo. Pare senza... che abbia detto anche che vuole bastonare i drogati, sembra, Sembra. Non lo so. Ci ha reso schiavi. Sembra. tutto per Davide da Bolzano. Dimmi. Ciao bello, come stai? Viene tutto a posto? Più o meno, dimmi. No, io ce l'ho con parenza. Su, veramente... sei col viva voce? No, assolutamente. Vabbè, allora, Davide, dimmi. Beh. Aspetta, provo a passare. No, con Parenzo veramente è il primo fascista della storia. Perché? Capito? Ma perché lui prende in giro tutti, capito? Cioè, prende in giro i napoletani, vuole imitarli. Ma veramente i napoletani non l'ha mai preso in giro Parenzo, comunque? No, gli riuscirò con quello di Caserta, c'è nato su duro. Vabbè, ma che c'entra? Imitava il dialetto, mica per prenderlo in giro. Ma perché deve imitare? Ma perché ma saranno affari suoi. Il suo modo di articolare. Oltre a questa cosa? No, allora è una persona che non mi piace, basta. Cioè, volevo dirlo in radio, volevo sì, dirlo... Sì, sono d'accordo. Cioè, volevo dirlo... Ma sì, ma là, ascolta Parenzo, amico. Sono d'accordo anch'io. Sono d'accordo con te. Ma dai, ma ti dai i tuoi soldi, ti tappi il tuo cash e basta. Sono d'accordo con te. Certo. E dopo te la faccio meglio io. Va bene, Davide, ciao. Alessandro, viva Riccardo. Alessandro, provincia di Imperia. Non si sente più Riccardo da qualche giorno, eh? Alessandro, provincia di Imperia. I riccardiani pure latitano, i riccardiani. Pronto? Sì. Ma sono di Sanremo, no? Provincia d'Imperia. Sanremo, benissimo, lo dica lei. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao, dimmi. Ma Parenzo, ho dovuto cambiare, è un'ora che aspetto, quindi cambio i temi del mio intervento. Ma Parenzo, ma tu dici del qualunquismo, ma a parte che no, si generalizzare, perché sennò stiamo a parlare per due giorni del tema delle carceri, ma non puoi negare che, visto che le cannette, a quanto pare l'hai detto, qualcuna te la sei fatta anche tu, sì, ci sono sì. 15.000 persone nelle carceri italiane che avevano magari 4 canne in tasca. Vero. I Madoff sono in giro. Allora, invece di mangiare il McDonald's e la Coca-Cola, dagli americani prendiamo l'esempio che chi tocca chi tocca i soldi di tutti deve essere come minimo interdetto. Vero, infatti il Madoff dei Parioli, visto che hai citato il caso di Madoff, il Madoff dei Parioli, quella famosa inchiesta che ci fu a Roma qualche mese fa, è in galera. Cioè, voglio dire, non è vero che la galera non la fa nessuno in questo paese, soltanto i poveracci. Posso dire, visto che ho veramente un'ora e dieci che aspetto, una cosa, io sono un piccolo imprenditore e lavoro nell'ambito della finanza immobiliare, no? Una società che conosco personaggi noti, non faccio i nomi, che hanno occupato in Lehman Brothers, in Credit Suisse, sì, certo, poltrone della Madonna, hanno fatto delle cose allucinanti, si sono fatti un annetto e mezzo di cella personalizzata. E poi sono tornati a casa. Guarda, veramente, al di là della parte... Ma guarda il caso, del presidente, ex presidente ormai del Bayern Monaco, che è in galera e addirittura in galera delle restrizioni pazzesche, è andato in galera per evasione fiscale di tantissimi milioni di euro, è in carcere, nessuno dice niente, delle restrizioni pazzesche. Ma ora fai il ghigliottinaro, Io non sto facendo il ghigliottinaro. Invece ti parlavo e parlavamo in questa trasmissione delle inchieste che riguardavano i politici, io sembravo il manettaro. No, ma io non sto dicendo adesso il problema qual è? Allora, il caso Orso, io contestavo a Gianrusso il fatto che lui volesse abolire un istituto che secondo gli me è previsto domiciliari. Esattamente. Ritrovo vuole Orsoni in carcere. Un attimo solo, fermi tutti. La zanzara. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria del... Silvano da Genova, buonasera. Buonasera, sono Silvano, volevo dire a Cruciani, sì, semplicemente riguardo a quello lì che con le picconate ha ammazzato per passare, non ci vuole l'ergastolo, assolutamente no, ci vuole solo la ghigliottina o la camera gas, nient'altro. Allora, il signor Silvano da Genova, caro Parenzo, sostiene che per Cabobo non ci vuole l'ergastolo, bensì la ghigliottina e oppure, scusi, la camera gas, Silvano? Però non c'è la cosa più logica per quello che succede a questo mondo, così almeno è finita la storia, giusto? Questo penso io. Silvano, okay? Sì, d'accordo, però in Italia la pena di morte non c'è più. In Italia. Non c'è più la pena. Purtroppo non c'è più la pena di morte, non c'è più tante cose, tutti fanno i cazzi che vogliono e possono continuare a fare casino. Fossero in un altro paese probabilmente l'avrebbero già preso una pallotta e l'ha fatto fuori come fanno in Cina, come fanno in altri posti, perché cose del genere possono capitare in un paese democratico come, cioè, lei dice in un altro paese chi prende a picconate una persona non prende 20 anni, 3 persone non so, l'Italia non lo si è visto tranquillamente 3-4 anni fa che lo prendono e si tagliano la gola e no, tagliano la gola no, in alcuni stati americani c'è la pena di morte, una rabbia chiaramente non in paesi come il nostro eccetera, ma però li mettono così a piazza, questo ha fatto quello, gli tolgono tac tac in 2 minuti tutto. Ma quale pubblica piazza? Sono paesi incivili quelli che mettono la gente in piazza e gli tagliano la gola. Probabilmente sì, probabilmente sono paesi incivili, perché si vuole. Dunque lei vuole vivere in un paese incivile? Ma ammazza picconate 3 persone così tranquillamente e poi magari lo fanno passare per uno che si è sbagliato, altro per me va levato dai piedi in qualsiasi maniera, decidete voi una punturina come si fa con i cani, non fate il mio cane che non stava bene. Una punturina come si fa per i cani, signor Silva, esatto, il sobrio intervento. Il piede poverino perché non ce la faceva più, ho fatto una puntura e ho detto magari ci può essere una punturina. Una puntura e via cabobo, diciamo, una puntura e via cabobo. Io dico di farli soffrire, per l'amor del cielo, però praticamente... Una punturina, una punturina. Non lo so, io secondo me no, secondo me no. Secondo me ci vuole l'ergastolo. No, probabilmente no, ma però per me sicuramente ci leverebbero tanti problemi nel questo momento. Nicola da Bologna. Sera, è conduttore? Sì. Sì. Allora, un saluto a te, a Parenzo, siete dei grandi. Volevo fare una puntualizzazione relativamente... Aspetta, aspetta, c'è il prof, parlaci tu, Parenzo. Sta impazzendo su Twitter questa minigonna della signora Santanchè. Giornataccia. Sta studiando le carte. Eh sì, il professore successi. Sta studiando le carte. Squilla ma non risponde. Il prof. Incredibile questa minigonna della Santanchè. Lo stai spopolando sulla rete. Nicola da Bologna, Nicola. Buonasera a tutti, volevo fare una puntualizzazione relativamente al fatto della nuova corruzione, Mose, Expo. Allora? Stai dicendo che c'è la corruzione di destra o di sinistra, secondo me la corruzione è punto, cioè o è uno è un lato. Su questo non c'è dubbio, giusto. Però certo. È allucinante dire questo è di destra, questo è di sinistra. Ma no, ma però bisogna dire che il sindaco di Venezia è del Partito Democratico e Galan di Forza Italia. Beh, come si è sempre no? Detto in passato, certo, sugli altri. Per me c'è la differenza tra un criminale, un ladro e una persona onesta. E poi non c'è un deterrente. È possibile che la gente che ruba non li marchiano a vita, li sbattono, gli hanno un calcio nel culo? Non dovrebbero fare. Sì, non dovrebbero proprio fare politica per la vita. Cioè il signor G che 20 anni fa faceva Greganti, sì, ma infatti non fa Greganti, politica, fa l'intermediatore, non fa. Anni questo qui ancora ce lo ritroviamo, cioè, ma è una roba allucinante questa qua. Succede solo in Italia, secondo me. Luca da Napoli, buonasera Luca. Salve, buonasera. Mi ha stranito un po' la sua quando riguarda un attimo, aspetta. Della niente, stasera studio professor Stormina. Sì, buonasera, c'è il professore? No. Non c'è. È fuori. Vabbè, niente, lo cercherò un'altra volta. Domani. Grazie. Bene, di nulla. Grazie, arrivederci. È la zanzara capricciosa, la zanzara. Hai sentito il studio, professor Tarmina? Beh, gentilissimo, è normale. Luca, allora? Questo è normale. Sì, salve. No, le volevo dire che mi hanno stranito un po' le sue affermazioni per quanto riguarda le cose che hanno detto la magistratura, ma sento un ritorno fortissimo. No, Luca, io sento benissimo, vado avanti, su. Ma io sento male. E allora? Vabbè, niente, mi hanno stranito le sue affermazioni per quanto riguarda le affermazioni della magistratura per l'omicidio di Cabob, che ha commesso Cabob. Vabbè, Stefano da Padova, non sento niente. Stefano. Buonasera, sono Stefano da Padova. ho stoppato la trasmissione per mezz'ora perché ho cenato con la famiglia. Bravo. E ho ripreso perché mi avete, grazie, ho cenato anche molto bene. Mi avete richiamato e ho sentito che l'argomento è sempre lo stesso, la corruzione, avanti, va? Ho sentito dei decerebrati che parlavano di ghigliottina, bravo, punturine, vabbè, insomma, ecco. Io perché le cose poi bisogna parlare, ma poi la soluzione dovrebbe essere presa in considerazione. Per cui, voi che siete una trasmissione piuttosto seguita, io che seguo da anni, La mia proposta è questa qua. Fate un movimento politico di pensiero per essere governati dalla signora Merkel. Io l'ho detto parte più volte. Cioè Parenzo vorrebbe che noi fossimo governati dalla Merkel. Non sospetti come battuto, no, ovviamente, no, però io, come... Parenzo, no, ma io penso questo, nel senso, la maggior parte delle persone che vi chiama è gente per bene, lavoratori, fanno la loro brave 10 ore, 12 ore al giorno, sì, sono responsabili, eccetera, eccetera. Poi effettivamente capita che si sentano queste cose. Questi malati di mente. Oramai, questi malati di mente, diciamo pure, questi pazzi scatenati. No, malati di mente, io non sto discutendo di malati di mente, che vabbè, io sono medico, ho a che fare purtroppo. Qualcuno chiama. Ho preso punturine, ambulanze. Bravo. Il discorso è un altro, signor Parenzo, perché lei di Padova, come me, capisce. Sì, certo. Dove stai a Padova, scusami, in che zona stai? Sono in provincia di Padova. Ah, perché sennò ti dicevo andare a salutare i miei. Vabbè, niente, dai, grazie, non importa. Ma che siete impazziti, veramente? Cioè, mandavi Stefano, un ascoltatore, a salutare i tuoi, ma sei diventato pazzo. Zona, scusa, stando a Roma, poverino. È gentile, se andava lì nella zona... Conosco però la sua famiglia di fama. Grazie. Signor Parenzo, gente per bene. Ma gente per bene? Ma che vuol dire gente per bene? Vuol dire gente per bene? Persone conosciute per essere persone per bene. Dottor Cruciani, mi scusi. La gente per bene è quella che tiene su tutta la baracca, voi compresi, chiaro? Sì, esatto. E allora? Secondo me. Con tutte le... Allora, questo sto dicendo, che la gente per bene è stufa di alzarsi, fare il suo dovere, come tutti, e poi sentire queste cose col condimento di gente che dice che fanno le punturine e voglio essere governato dalla Merkel, dirò di più i particolari, voglio prendere un alter. Ma non esageriamo, dai, su. Assolutamente, mi sono rotto le scatole. Perché? Perché di sì. Ma la gran parte delle persone sono una persona estremamente tranquilla. Io voglio che prendano un albergo nella foresta nera con 10 ingegneri, 10 economisti e 10 giudici, che diano gli appalti, voglio che li facciano loro tutto su internet con l'ordine tedesco, ha capito? No, questo è vero, questo è vero. Allora Farage una volta ha detto, grazie, in Inghilterra un tempo di italiani ne arrivavano pochi, ora sono troppi. Noi siamo figli delle stelle. Ti segnalo che Mandarà, il nostro amico Salvo Mandarà, che possiamo dire il nostro grillino preferito, ha preso una multa per eccesso di velocità. Io non sarò tra quelli che... Ecco! Lo racconta, lo racconta, senti. Allora, parliamo di multe per non rispetto del codice della strada. A luglio del 2013, secondo la polizia provinciale di Pavia, io avrei superato in una strada provinciale il limite di velocità, che era 90, di 11,7 km/h. Andavo, secondo loro, tolti i margini del 5% che la legge impone, a 101,7 km. Ma però devo dire che su questa cosa Mandarà ha ragione, che il codice della strada è fatto dagli ubriachi. Ma a noi perché dovrebbe nel merito interessare che il signor Mandarà una multa? Cioè, noi già dovrebbe, ma già ci dovrebbe interessare molto poco il fatto che lui pensi che dietro, che il Bilderberg sia dietro all'uccisione di Kennedy. Ecco, già questo ci dovrebbe interessare molto poco, ma meno di molto poco ci dovrebbe anche interessare che Mandarà ha preso una multa. Cioè, questo è la cornice del mio piccolo, breve e non arrabbiato intervento. Questi sono i punti più forti del mio ricorso. Poi ho aggiunto il fatto che il codice della strada è stato fatto da degli ubriachi, a dir poco, perché è impensabile che tu metta una multa di 60 euro se eccedi il limite fino a 10 km/h e poi salti direttamente da 60 a 180 euro se tu lo superi di 10 e poi rimane 180 euro se lo superi di 20 o di 30 o di 40 e poi c'è un ulteriore scaglione sopra i 40. Mandarà, ma abbiamo con noi una ragazza, una signora che ha la settima, porta la settima, caro Parenzo. Dicono che porti la settima. Dicono che porti la settima. Guardatela sul web, guardatela. Marica Fruscio, buonasera. Buonasera, comunque dovete scalare di due marce, siamo alla quinta, non alla settima. Ma perché dicono, perché dicono la settima? Ma non è possibile, le foto che ho visto io, ma vogliono sempre esagerare, tu sai che c'è questa mania dell'esagerazione, insomma, in tutto, quindi hanno esagerato anche in questo. Però no, Marica, quinta, le foto quinta, ultima coppa precisa. Com'è? Quinta? quinta ultima coppa, cioè la coppa più grande della quinta. Non so se voi ve ne intendete, la studio, comunque è la coppa più grande della quinta misura. Beh, insomma, ce ne intendiamo. Non tocchiamo la sesta, non tocchiamo la sesta e neanche la settima. Poi di conseguenza. Ma perché scrivono la sesta? Effettivamente quello che ho visto io, perché però. È un tema, eh? È una domanda. È una domanda. Alla radio della Confiducia, certo, beh, è un tema. Dice, ma assolutamente, come, assolutamente. Marca, scrivono la settima. Bisognerebbe aprire un'inchiesta, un fascicolo. Strano che il report della Gabbanelli non si sia mai occupato. No, io sono l'articolo della Costituzione che insomma prevede l'utilizzo di nozioni, notizie comunque che sono veritiere, ecco, questa non lo è, dunque, perché è una punta. Ma di chi si occupa Madame nel dettaglio? È una showgirl, è una showgirl. Allora, la signora Marica Fru, sempre palloni sono. Sempre palloni sono, vedi? Anche spirito, sempre palloni. Io dico però, con questa che sarà quinta, comunque sono enormi queste tette che lei, sono veramente grandi. Allora, come si fa a campare? No, ma io ho visto le foto, una cosa impressionante, effettivamente. Dove impressionante. Un giorno. A parte che lei campa anche. Grazie. No, dica grazie alle mie. Grazie, mi fate campare, mi fate guadagnare. Lo dica. No, allora, no, vabbè, insomma, ho utilizzato parecchio il fisico per impormi. Però dopo, insomma, poi dopo di quello ho fatto subentrare dell'altro, quindi delle conoscenze. Delle comunque, conoscenze. Sì, comunque calcistiche, intendo. Non mi voglio affacciare in altri campi. Però, ciao Fruscio, la realtà è che lei, la realtà, ma è meravigliosa questa cosa qua. Lei dovrebbe esaltare questa cosa. Grazie al mio fisico, e in particolare grazie alle non l'ho mai negata. Assolutamente, l'ho sempre detta. Assolutamente, infatti, grazie alle meravigliose tette che ho, cioè siamo alla quinta, sesta, settima, comunque sono straordinarie. Grazie a questa ben di Dio, io riesco a campare e a vivere. Questo mi danno un sacco c'entra di soldi. Scusate, Paul Newman ha campato anni col suo sguardo, il suo ammiccare. Bene, assolutamente. Cioè, non vedo perché io non devo campare con le mie tette, non ho capito. Ma infatti, applausi, facciamo un applauso. Eccolo qua, l'applauso che arriva. Finalmente. Questo tema, male, però. Male. Questo tema, no, chiedo al conduttore. No, ma è un tema di grande attualità. No, ma questo tema di cui stiamo parlando ora non c'entra però con Mose, giusto? Un po' di dolcezza a tutto questo amaro che circola. Esatto, bravo. La politica, tra quello che basta col Mose. Diamo un peso giusto, una quinta, un peso giusto ogni tanto agli argomenti serali. Allora, no, però l'argomento è importante perché, come lei sa, in politica ogni tanto qualcuno dice ma le donne devono affermarsi solamente grazie al merito. Lei invece è una di quelle che dice no, io mi sono imposta anche, poi lei sa anche parlare, se non sapesse parlare. Ma sì, no, ma effettivamente sono tutte cacciaballe quelle che dicono guardi, io sono una personcina carina, seria, non mi metto le scollature, sono figlia di Dio, insomma lo siamo tutti. Però lei rivendica il fatto che grazie al suo fisico guadagna. Grazie al suo fisico guadagna dei quattrini. No, guadagno, nel senso, no, mi sono imposta, è diverso, mi sono creata il mio personaggio che sta in una via, diciamo, tra l'esperta, tra virgolette, di calcio e comunque la persona che prende in maniera ironica la sua persona e naturalmente anche gli argomenti per addolcirli un po'. Insomma, diciamo la verità, che senza quelle tette là mostrate al vento e senza una lingua, non la inviterebbero, No, non siate così cattivi, perché io, guarda, sono una che sono molto autoironica, per cui in questo mondo fatto tutte di persone con la puzza sotto il naso, tutte prime donne, eccetera, un po' di autoironia ci vuole. No, ma infatti, però, secondo me, lei è un dibattito molto interessante. Secondo me tu dovresti dire, io non ho nessun timore, nessuna vergogna a dire che grazie a io riesco a tirare su un po' di migliaia di euro. Diciamo che riusciamo a campare. Ma devi sapere, Parenzo, devi sapere. Mi sono trovata un posticino, ecco, in un emisfero così grande che quello della televisione, dove comunque è difficile affermarsi. Come allora, sappiamo. Parenzo, devi sapere una cosa, che l'altro giorno, quando abbiamo letto quella storia sul Corriere della Sera, non voglio fare paragoni, per carità, di una persona che attraverso il proprio corpo andava in Svizzera a fare la prostituta. Adesso, ripeto, non voglio fare nessun paragone. Vabbè, non scendiamo a queste cose. No, ma infatti ho detto non voglio fare il paragone, sto dicendo semplicemente che utilizzare il proprio corpo, in questo caso, non per, come dire, per vendersi, ma per andare in televisione e farsi disegnare la Coppa Italia del Napoli, perché devi sapere che pur essendo bresciana è diventata tifosa del Napoli, signora Marica. Ma lei ha continuato a sbagliare le informazioni, perché io non sono neanche bresciana, io sono nata a Milano, Alzate Bene Fratelli, per cui insomma dovete informarvi anche bene. No, sono, è vero, ma perché Milano, tifosa del Napoli? Sono tifosissima del Napoli, perché innanzitutto mi sono innamorata della città di Napoli, così frequentandola. No, frequentandola per motivi lavorativi. Ma non ha parenti, non ha parenti di Napoli. Ma è vero che qualche, no, fino a qualche tempo fa facevi le hotline con uno pagava per vederti in doccia nuda, meraviglioso. No, assolutamente no, dai, no. E poi hanno scritto. Non mi etichettate cose che non ci sono. No, ma ho letto, dai, questa cosa, è falsa? È falsa questa cosa? No, è falsa. Come che sono di Brescia? Ma dov'è che sono nata a Brescia? Io sono nata a Milano, state bene fratelli, con tanto di... E che ne so, ho letto su Dagospia. Ma chi ha scritto quelle cose? Tutti in esattezza. Ma Dagospia, insomma, devi imparare anche a scrivere. No, ma tu un porno lo faresti? Un porno lo faresti? No, assolutamente mai. No. Guarda, mai. Ho avuto delle offerte, sì, che avrebbero, diciamo, allertato i campanellini. E per chi voti? Per chi voti? Io per chi voto? Renzi, ti piace? Di estrema destra. No, di estrema, no, no, destra. Chi ha votato? Chi ha votato? Chi ha votato? Salvini tutta la vita. Salvini. Salvini. Tifosa del Napoli che vuoi estrema. Ma guarda che, ma no, guarda che voi. Vabbè, guarda, anche... riprendiamo allora domani. Guarda, Mari, che ti voglio invitare anche domani, perché è una cosa da approfondire. Marica Fruscio, no, vota Salvini. Ma non perché uno ha principi leghisti che vanno al di là del fatto, ma no, che ma io. Ne parliamo domani, no, dobbiamo chiudere. Ti abbraccio, ciao. Ciao. No, ok, va bene. Ciao, allora ciao, ci sentiamo domani. Vi bacio, saluto, un bacio. Bacio. Vieni qua in studio a trovarmi, così voglio vedere un po'. Ciao. Scusate, Paul Newman ha campato anni e anni e anni col suo sguardo, il suo ammiccare. Cioè, non vedo perché io non devo campare con le mie teste, non ho capito. Cioè. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Amico mio, lì te lo dico da amico, gatta cicovali. Radio 24, la passione si sente.